Buongiorno a tutti, grazie a voi, grazie ai tanti giovani universitari per questa partecipazione. Ma un grazie preliminarmente, devo dirlo, soprattutto al Presidente della Camera, Roberto Fico, per aver consentito lo svolgimento in questa sede della Camera dei Deputati del convegno organizzato dalla Fondazione Basso e dal Tribunale Permanente dei Popoli nel giorno della ricorrenza del 70° anniversario della Dichiarazione Universale del Diritto dei Popoli, che voglio ricordare all'articolo 1 e quindi all'inizio si apre con questa affermazione solenne: tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e in diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. E credo che sia importante mettere al centro di questa giornata, in un periodo culturale e politico segnato da forti tensioni, questa affermazione di parità di diritti e di dignità e questo dover essere di azione con spirito di fratellanza. Al centro della giornata abbiamo posto la tragica vicenda del popolo Rohingya, oggetto di genocidio da parte del Myanmar. Un paese, il Myanmar, che è in mezzo ai conflitti di grandi potenze mondiali per interessi strategici, economici e militari. La questione al nostro esame non riguarda singoli diritti umani, bensì l'insieme delle violazioni, il sistema di violazioni, direi, di tutti i diritti fondamentali, sino a comprendere il più grave dei crimini previsti dal diritto internazionale, il crimine di genocidio contro il popolo Rohingya. Vedremo tra un attimo gli stretti legami tra diritti umani e diritti dei popoli. Intanto ci preme, all'inizio di questa riflessione, di questa giornata, che in una sede fisicamente istituzionale come questa si dia un cenno alla natura del Tribunale Permanente dei Popoli, giacché è accaduto talvolta di ascoltare commenti o affermazioni che implicano confusione e stravolgimenti concettuali tra tribunali di opinioni e sedicenti tribunali del popolo di funesta memoria. Per cogliere la distanza abissale tra il Tribunale Permanente dei Popoli e i famigerati tribunali del popolo è sufficiente rammentare un piccolo episodio accaduto a Bogotà nel luglio del 2008, quando ancora era molto acuto il conflitto tra le FARC e le forze armate del governo. A conclusione di un impegno biennale, impegno pubblico in Colombia, il Tribunale Permanente era riunito in una affollatissima aula dell'Università di Bogotà. Il presidente del collegio, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel per la pace, stava leggendo la sentenza finale. In diversi punti di questa aula molto affollata comparvero dei personaggi incappucciati che si autodefinirono combattenti per la libertà del popolo e richiesero, o meglio, pretendevano la parola. Il Tribunale ovviamente negò loro la parola, affermando che il diritto e i diritti posti alla base di ogni sentenza, il cui connotato essenziale è la pubblicità, costituiscono un'alternativa trasparente di civiltà e di impegno democratico, un'alternativa antitetica non soltanto alla violenza, ma anche ad ogni modalità segreta ed occulta di intervento nelle relazioni umane e nelle relazioni sociali. Uno scrosciante applauso dei presenti indusse questi incappucciati a rinunciare alle loro pretese e a ritirarsi dall'aula con qualche fischio che veniva dall'assemblea. Il Tribunale per Benedetto del Popolo è un tribunale di opinione istituito da Lelio Basso, che era stato componente del Tribunale Russell, convocato dal filosofo inglese Bertrand Russell negli anni 60 per accertare le violazioni dei diritti umani che venivano commessi dagli Stati Uniti nella guerra contro il Vietnam. Russell convocò un collegio di grandi personalità internazionali provenienti da vari paesi e da varie culture, e è importante ciò che il 15 novembre del 66 scrissero in premessa i componenti di questo tribunale. Ci consideriamo come un tribunale che, pur sprovvisto del potere di applicare sanzioni, dovrà rispondere ad un certo numero di questioni con l'imparzialità e il rigore che ci si attende da un tribunale. E quando il presidente della Repubblica Francese de Gaulle vietò la convocazione, o meglio, lo svolgimento della sessione a Parigi, così come si era programmato, ritenendo che l'esercizio della giurisdizione appartiene semplicemente agli Stati e che quindi un gruppo di privati cittadini non poteva arrogarsi questo potere, ci fu molta polemica ovviamente. Ma allorquando di lì a qualche giorno il Tribunale si riunì a Stoccolma, il presidente di quel collegio, Bertrand Russell era ormai molto anziano, il presidente fu Jean-Paul Sartre, rivendicò la legittimità dell'iniziativa affermando che quel tribunale non sostituiva alcun potere legittimo. Esso è nato, affermò Sartre, da una lacuna dell'ordinamento internazionale e da un appello dei movimenti e delle mobilitazioni mondiali al fine di verificare la legittimità dell'azione degli Stati Uniti d'America. La nostra impotenza, concluse, è la garanzia della nostra indipendenza. Non rappresentando né governi né partiti, noi non possiamo ricevere ordini da nessuno. Esamineremo i fatti secondo la nostra coscienza e in tutta libertà di spirito. Dopo la morte di Russell, Basso fu sollecitato da vari esuli sudamericani a riaprire un tribunale di opinione sui crimini che andavano commettendo gli stati, le dittature sudamericane, contro i propri stessi popoli. E Basso convocò il tribunale, che ebbe tre sessioni, due a Roma e una a Bruxelles, che prese il nome di Tribunale Russell II. Ecco, è della somma di quelle esperienze degli anni 60 e 70 che Lelio Basso maturò l'idea del vincolo strettissimo tra diritti umani e diritti dei popoli, e si impegnò con l'ausilio di giuristi e di politici di rilievo internazionale ad elaborare una dichiarazione universale dei diritti dei popoli, che vedo sulle sedie, quindi spero che ce l'abbiate tutti, che fu approvata dalla conferenza di Algeri il 4 luglio 1976, esattamente a 200 anni dalla dichiarazione di indipendenza americana. Fu una sintesi del nuovo diritto internazionale che andava emergendo sia dalle risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sia dalle aspirazioni dei movimenti di liberazione di tanti popoli ancora oppressi. L'effettività dei diritti umani, secondo Basso, non poteva prescindere dal riconoscimento dei diritti dei popoli. Per lui, come per tutta la migliore cultura politica e costituzionale nata dalla lotta al nazifascismo, cultura che ha saputo in Italia, in Germania, in Europa, nel mondo, coniugare i diritti civili e i diritti sociali, la libertà e il principio di eguaglianza effettiva, ecco, per questa cultura l'uomo non è un'astrazione, ma, come ha scritto Salvatore Sené agli atti del Tribunale Russell, che è stata pubblicata in Brasile, l'uomo non è un'astrazione, ma un soggetto storicamente determinato, una persona inserita in una trama di relazioni economiche, sociali e culturali che formano la sua specifica identità, la cui tutela non può avvenire attraverso l'applicazione di moduli astrattizzanti che non tengono conto delle specifiche connotazioni del contesto collettivo nel quale si è formata la singola persona. Ecco, dalla stessa riflessione Basso maturò l'idea di far nascere un tribunale permanente a cui potessero rivolgersi popoli, movimenti, associazioni, minoranze. È nato così nel 79 il Tribunale Permanente del Diritto dei Popoli, che in 46 sessioni dal giugno 79 ha segnato la sua storia con le pronunce sul genocidio degli armeni, sul disastro ambientale di Bhopal, sulle politiche predatorie delle multinazionali in Africa, sulle tragedie dei migranti, recenti sentenze dell'anno scorso e di quest'anno, sulla ripresa delle logiche sovraniste di guerre di potenza, sulle violenze del governo turco contro il popolo curdo. Questo vuol continuare ad essere il Tribunale Permanente, un tribunale della coscienza civile ed etica del mondo che lavora come la giurisdizione, effettuando con rigore la ricostruzione dei fatti e delle relative cause, pronunciando con imparzialità e indipendenza, fondando i suoi giudizi sul diritto come valore e strumento alternativo alla forza e alla violenza, utilizzando la sola forza della ragione e dei diritti dell'uomo e dei popoli. Per tanti anni il Tribunale ha auspicato la formazione di una giurisdizione internazionale effettiva e finalmente nel 1998 qui a Roma la gran parte degli Stati stipularono una convenzione internazionale da cui nacque la Corte Penale Internazionale. Quindi quell'auspicio è stato realizzato. Allora non ha più ragione d'essere un tribunale di opinione? Ecco, noi lavoreremo perché il tribunale di opinione perda la sua ragion d'essere. Ma questo accadrà semplicemente quando la Corte Penale Internazionale sarà messo nelle condizioni effettive da parte della comunità internazionale di agire a tutto campo, lavorando con effettività, con indipendenza, con rigore, anche nei confronti delle grandi potenze che non solo, alcune delle quali non solo non hanno ratificato la Convenzione, ma agiscono per sabotare e per impedire alla Corte Penale Internazionale di agire. Fino a quel momento ci sarà ancora motivo di esistenza da parte di tribunali di opinione. Quando abbiamo deciso di aprire la sessione del Tribunale sulla tragedia del Myanmar, e ancor di più quando il Tribunale Permanente dei Popoli nel settembre del 2017 ha emesso la sua pronuncia, sembrava che questo genocidio e tutte le altre violazioni di cui sentirete parlare contro i popoli che vivono e vivevano in Myanmar non interessasse non solo la comunità internazionale, ma neanche il sistema dei mass media. L'azione del Tribunale Permanente è stata una delle prime che a livello mondiale ha voluto accendere i fari su queste tragedie e su queste sofferenze. Ecco, oggi, a distanza di un anno da quella pronuncia, le cose sembrano cambiare, sia pure lentamente. Come sentirete dai nostri relatori, c'è una iniziativa presso la Procura della Corte Penale Internazionale che potrebbe interessarsi della questione, superando anche problemi di competenza che sono stati opposti. Ma non ci sono semplicemente azioni criminali da accertare e responsabilità da sanzionare. Le sofferenze di queste popolazioni permangono e si aggravano. Centinaia di migliaia di persone, tra cui tanti anziani, bambini, donne, sono state costrette a lasciare i luoghi di origine e di residenza del Myanmar e a rifugiarsi all'estero. Bisogna attendere dunque i tempi inevitabilmente lunghi della Corte Penale Internazionale, ammesso che al giudizio si arrivi? È indispensabile invece che la comunità internazionale intraprenda subito, con urgenza, azioni di sostanziale ripristino delle condizioni e delle modalità di vita del popolo violentato dal governo del Myanmar. I tempi e i modi di riconoscimento vitali di questo popolo non devono determinare ulteriori sofferenze. Occorre perciò trovare soluzioni praticabili alla crisi prima che sia troppo tardi. Come abbiamo scritto nell'atto di convocazione di questo convegno, il popolo Rohingya sembra essere divenuto drammaticamente il simbolo dell'incapacità della comunità internazionale e delle agenzie internazionali di applicare quel mai più che era scritto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. La tragedia di quel popolo illustra in modo chiaro ciò che sta accadendo purtroppo in molte parti del mondo. La difficoltà, talora l'inefficacia del diritto internazionale a continuare ad essere, come è stato per qualche decennio dopo la Costituzione delle Nazioni Unite, criterio di orientamento della politica e strumento di protezione dei popoli e delle persone da gravi violazioni dei diritti all'esistenza, alla vita, al sostentamento e alla pari dignità. Ecco, di fronte alle crisi e di fronte all'incapacità del sistema internazionale di far diventare effettivi i diritti fondamentali, nel mondo si sta determinando un clima di rassegnazione o peggio, di arretramento culturale con ripresa di egoismi, sovranismi, rifiuto dell'altro, respingimento delle migrazioni, quando sappiamo, e stamane si apre a Marrakesh una conferenza internazionale, che in questo momento ci sono 260 milioni di migranti che si muovono dalle condizioni e dai paesi di partenza. Pensiamo che con i ponti fisici o metaforici, con i muri, fisici e metaforici, possiamo fermare questa enormità di popolazioni, o vanno invece orientate, regolamentate, consentite con governo del fenomeno. Ecco, noi alla rassegnazione, all'impotenza o anche all'involuzione, vogliamo contrapporre l'impegno per stimolare una vigile e più attiva opinione pubblica internazionale ad intraprendere con determinazione la lotta per il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali, con la consapevolezza, che è espressa in tanti documenti internazionali, che non può esserci pace senza giustizia, e che non può esservi giustizia senza rispetto del principio di uguaglianza tra le persone e i popoli. Questo tribunale è nato nel giugno 79. Io credo che possiamo qui ripetere oggi le parole che Julio Cortázar ebbe a pronunciare quel giorno in occasione della seduta inaugurale di Costituzione. Disse: questo tribunale dei popoli che si costituisce oggi a Bologna ci dà nuova lena e una nuova ragione di perseveranza. Noi non costruiamo muri, ma inventiamo ponti, inventiamo strade verso quanti, da molto lontano, ascolteranno la nostra voce e ne faranno un giorno un tale clamore che abbatterà le barriere che li separano oggi dalla giustizia, dalla sovranità e della dignità di tutti i diritti degli uomini. Con queste parole di Cortázar possiamo, io credo, ben inaugurare questa riflessione oggi qui a Roma, a 70 anni dalla proclamazione della Dichiarazione Universale che avvenne a Parigi il 10 dicembre di 70 anni fa. Grazie. Presidente del Tribunale Permanente dei Popoli e meno Buongiorno a tutti. Come dice il titolo del mio intervento, io parlerò di due iniziative, di due atti che sono diversi fra di loro, ma sono strettamente connessi e intrecciati. Il giudizio del Tribunale Permanente dei Popoli, una sentenza che è stata pronunciata dopo una sessione di lavoro a Kuala Lumpur nel settembre del 2017, dal Tribunale Permanente dei Popoli, appunto, sui crimini commessi in Myanmar ai danni della minoranza etnica Rohingya, ma anche di altre minoranze, le minoranze musulmane, il popolo dei Kachin presenti in quel paese, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimine di genocidio nei confronti dei Rohingya. E questo è il primo atto. Accanto a quest'atto c'è, come veniva accennato già da Franco Ippolito, c'è una decisione di carattere più strettamente giuridico ed è una decisione di carattere preliminare, perché la pretrial chamber, la camera preliminare della Corte Penale Internazionale, investita di una richiesta del procuratore presso la Corte Penale Internazionale, ha affermato la sua giurisdizione su un particolare crimine contro l'umanità: la deportazione dei Rohingya nel vicino stato del Bangladesh. Come ho detto, sono atti che originano dalla stessa realtà, ma seguono naturalmente percorsi differenti, come è comprensibile quando a giudicare sono da un lato un tribunale di opinione, come il Tribunale Permanente dei Popoli, che pure adotta procedure e di accertamento dei fatti e di qualificazione giuridica dei fatti alla luce delle convenzioni internazionali molto rigorose, da un lato dico un Tribunale Permanente dei Popoli e dall'altro invece un soggetto come la Corte Penale Internazionale, che è legittimata da una convenzione internazionale, lo Statuto di Roma, e quindi si muove su una strada più stretta, segnata dai limiti della convenzione stessa. Ecco, io mi soffermerò, sia pure brevemente, sugli aspetti di queste due decisioni, ma quello che più conta ai miei occhi e che entrambi concorrono a promuovere l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale su una situazione di eccezionale gravità, tanto per le violazioni dei diritti umani quanto per le sofferenze che vengono inflitte a un intero popolo e a una serie di minoranze etniche e religiose. Sappiamo tutti, lo accennava già Franco Ippolito, che la voce della ragione a volte, soprattutto quando ci sono clamori di guerra, può sembrare flebile. Sappiamo tutti che il diritto penale internazionale può sembrare ed è in larga misura impacciato e lento, macchinoso, spesso inidoneo a rispondere alla drammaticità e all'urgenza di determinate situazioni, ma io credo che non dobbiamo disperare né dell'uno né dell'altro strumento e che appunto entrambi possano e debbano concorrere, rafforzandosi a vicenda, per far sì che ci sia vigilanza dell'opinione pubblica internazionale, che è poi un fattore che preme anche sulle autorità che promuovono atti criminali come quelli che rappresenterò. Allora, io ho partecipato alle udienze del Tribunale Permanente dei Popoli a Kuala Lumpur e la sentenza che è stata emessa al termine di 3 giorni di testimonianze, di acquisizione di documenti, di acquisizione di pareri di esperti, è un documento dai contenuti duri, molto aspri, terribili perché rappresenta una situazione terribile. E devo dirvi che è stata per me un'esperienza umana particolarmente coinvolgente. Io sono stato per metà della mia vita professionale un magistrato penale, sia come magistrato del pubblico ministero, sia come giudice. E ho sempre presente le parole che usa Ugo Betti nel suo dramma La corruzione a Palazzo di Giustizia, parlando dei magistrati penali. E dice così, dice: per anni hanno esaminato azioni umane di straordinaria sottigliezza e perfidia. Magari loro malgrado avrebbero voluto voltare la faccia, ma dovevano, era il loro mestiere. Ecco, nonostante questo, confesso, nonostante, come dire, questa esperienza ventennale di magistrato penale, i crimini che sono stati documentati in questo giudizio hanno avuto un forte impatto anche emotivo su di me, diverso da quello che ho subito pure a contatto con altre gravi e drammatiche realtà, perché questi non sono crimini di un individuo, non sono crimini di una associazione criminale, per quanto estesa e pervasiva, sono crimini del potere costituito, sono crimini della maggioranza contro la minoranza, sono crimini degli armati contro gli inermi. Quindi sono delitti compiuti su una scala incommensurabilmente più vasta, più larga e più feroce di tutti gli altri delitti, e che hanno come bersaglio un intero o intere popolazioni o intere minoranze. E in particolare, a proposito del genocidio, io credo che ci siamo misurati e ci misuriamo costantemente con un dato. Possiamo coltivare l'illusione che il genocidio appartenga alla storia, e spesso lo facciamo, si è ricordata la drammaticità dell'Olocausto. Ma in realtà proprio l'analisi della storia e degli avvenimenti che sono in corso ci dicono che purtroppo il genocidio non è un retaggio del passato. Uno studioso, William Chabat, che ha dedicato attenti studi a questo crimine internazionale, lo ha definito il crimine dei crimini. E questo crimine non solo è antico come l'umanità, lo diceva Jean-Paul Sartre, ma è un crimine attualissimo. Purtroppo è un crimine moderno, attuale. Pensiamo solamente, cioè, il genocidio armeno, che risale al 1915, il genocidio cambogiano, la pulizia etnica sfociata nel genocidio nella ex Jugoslavia, culminata nella strage di Srebrenica, il massacro in Ruanda dell'80% della popolazione Tutsi, avvenuto con una sconvolgente rapidità e sistematicità in un arco di tempo di 3 mesi, dall'aprile a luglio del 1994, e oggi il genocidio dei Rohingya e i crimini anche contro le altre minoranze. Quindi tutti questi eventi ci dicono tragicamente che il genocidio è un crimine moderno e che nella contemporaneità trova alimento. Lo diceva già Franco Ippolito, dopo l'Olocausto, e anche oggi quando ricordiamo questa vicenda drammatica che ci ha segnato da vicino, quando ricordiamo per la parte che riguarda noi italiani l'orrore delle leggi razziali, diciamo sempre mai più, e tutti gli atti della comunità internazionale hanno detto mai più. Però ecco, i crimini che sono commessi in questo momento in una parte lontana del mondo, ma ormai il mondo si è rimpicciolito e siamo parte, diciamo, di quella realtà non meno che di quelle più vicine a noi, questi crimini gravissimi proiettano e prolungano nel XXI secolo la sequenza criminosa che ha fatto definire il XX secolo il secolo dei genocidi. Naturalmente questo non riduce né attenua la gravità di quello che è avvenuto in Myanmar. Al contrario, aggrava le responsabilità degli autori di questo comportamento. Ecco, un tribunale di opinione. È stato detto qual è la sua storia, qual è la sua funzione, ma io voglio dire sinteticamente alcune cose che differenziano e danno, come dire, una sorta di vantaggio, o almeno un significato particolare a un tribunale d'opinione. Innanzitutto, un tribunale d'opinione può dare tempestivamente voce alle vittime. Nel giudizio non conta tanto, come avviene in altre sedi, la sentenza, la decisione. Contano le udienze, conta dar voce alle vittime, conta un momento di pubblicità su orrori che vengono tenuti nascosti. Quindi l'udienza è più importante della sentenza quando si lavora in un tribunale d'opinione. E l'accertamento di profili giuridici è straordinariamente importante anche quando avviene da parte di un tribunale d'opinione che peraltro contiene esperti qualificati, giuristi, oltre che portatori di altre esperienze, perché lo sappiamo bene che la torsione del diritto, la negazione del diritto precede poi la violenza, precede anche la violenza di massa. E infatti ai Rohingya per prima cosa viene negata la cittadinanza. Gli dicono: voi non siete cittadini di uno Stato nel quale risiedete da tempo immemorabile, voi non siete cittadini. E a partire dal diniego di un diritto poi si legittima la violenza e la repressione. Inoltre il tribunale di opinione può, diciamo, intervenire con una tempestività che è ignota ad altri organi del diritto penale internazionale, perché interviene nel momento in cui, a ridosso dei fatti, degli accadimenti, e quindi può contribuire, può tentare, diciamo, di fornire a tutti la conoscenza necessaria per fermarli, anche perché è svincolato dai pesanti condizionamenti di cui credo altri parleranno, che incidono sul funzionamento degli organi della giustizia internazionale. Inoltre, il tribunale di opinione può andare al di là delle responsabilità individuali. Le responsabilità individuali ci sono gravissime, vanno sempre accertate, perché sono gli uomini poi a dare corpo all'orrore, ma ci sono anche responsabilità più generali, a volte di stati, di interi gruppi dirigenti, di personalità di rilievo, che non partecipano direttamente, ma che magari tacciono e acconsentono. E anche da questo punto di vista la forza di una pronuncia del tribunale, di un tribunale di opinione, può essere importante. Quindi un tribunale che non prevede prigioni, non ha forza coercitiva, non c'è una esecuzione dei propri deliberati, ma non per questo è inerme o insignificante. Devo dire che anche io, appunto, proprio avendo partecipato di una giurisdizione che poi è sempre assistita dall'esecuzione dei suoi provvedimenti, dall'esecuzione coercitiva, come dire, ho dovuto capirlo attraverso l'esperienza. C'è un altro dato sul quale voglio richiamare la vostra attenzione, vedo che è un pubblico di giovani e quindi forse particolarmente sensibile a questa dimensione. Questo è il primo genocidio che avviene nell'epoca di Internet e nell'epoca e nella società della comunicazione, in cui tutti possono documentare atrocità, avvenimenti crudeli, delitti che vengono compiuti. È una differenza di non poco conto. Perché sempre quando sono stati consumati i genocidi c'è sempre stata una sorta di cortina di silenzio e molti hanno potuto dire ma io non sapevo. Se noi ricordiamo quello che è accaduto appunto a Norimberga e negli altri tribunali penali internazionali e negli altri tribunali che si sono occupati di queste vicende, una serie di persone si sono difese dicendo io non sapevo, i tedeschi non sapevano dei campi di concentramento, noi non sapevamo di altri orrori. Ecco, questo oggi, questo alibi non c'è più. Non c'è più perché tutti possono vedere e sapere e questo naturalmente almeno, come dire, elimina quel velo, quell'oscurità che è stata sempre propizia per gli autori di crimini di questa natura. C'è un ruolo grande dell'informazione, Amartya Sen in un libro antico spiegava, non ho il tempo di raccontarvelo qui perché è molto interessante, diceva la libertà di stampa può salvare molte vite umane, che è una cosa che ci può apparire a tutta prima strana, insomma. Ma lui parlava per esempio di quello che accadeva in India e delle grandi carestie che si sono verificate in passato e diceva non c'era una penuria assoluta, solo che era difficile, bisognava trasportare il cibo da una parte all'altra del paese, ma questo non accadeva perché i giornali non denunciavano questa situazione e le autorità non intervenivano e non lo hanno fatto. E quando invece c'era una maggiore libertà di opinione, le autorità sono state stimolate a intervenire. Quindi la libertà di stampa e l'informazione può salvare molte vite umane e questo dobbiamo averlo sempre presente e lo sappiamo anche oggi. Gli infortuni del lavoro, se non sono denunciati, se non sono denunciati dalla stampa non ci saranno misure e così via. Gli esempi si potrebbero moltiplicare. Ora, tutto quello che è accaduto in Myanmar è accaduto perché in realtà è solo formalmente una democrazia. È una democrazia sotto il controllo dei militari. Nel 1962 un colpo di Stato militare portò al potere un regime dichiaratamente repressivo. E questo regime, appunto governato dai militari, cominciò una politica di discriminazione. C'erano difficoltà economiche nel paese, c'era una situazione difficile, e allora si scelse una via che spesso il potere sceglie. Individuare un nemico, individuare degli avversari, individuare un bersaglio, e quindi cominciarono le discriminazioni. Il paese è a maggioranza buddista, e cominciarono le discriminazioni nei confronti delle minoranze. E già allora cominciarono esodi di massa e pressioni sui Rohingya, anche se di portata più limitata di quelle che sono accadute in questi ultimi tempi. Ci fu una reazione dell'opinione pubblica internazionale e sembrò che un risultato positivo nel 2012 fosse stato raggiunto quando Aung San Suu Kyi, che era una sorta di icona internazionale, venne eletta in Parlamento nel 2012 è nominata consigliere di Stato, sostanzialmente una carica di primo ministro, nel 2016. Ma tutti sanno, oramai tutti sanno, credo che il Tribunale è stato uno dei primi a cogliere questo dato, che la situazione dei diritti umani non è migliorata, anche da quando è stata, diciamo, introdotta una democrazia, sia pure formale e controllata dai militari. Nessuna reale azione, tranne alcuni rapporti molto illuminanti, ma nessuna azione sostanziale è stata intrapresa a livello delle Nazioni Unite, e quindi si è verificata appunto la situazione a cui ho accennato, cioè un governo controllato dai militari sulla base di norme molto singolari. I militari, per esempio, hanno il diritto ad avere il 25% dei seggi in Parlamento, controllano effettivamente, diciamo, le principali leve dell'economia, si presentano all'estero come i rappresentanti dell'intero paese. E il ruolo di Aung San Suu Kyi è stato un ruolo, diciamo, di omissione. Tutto sommato è stata una grande delusione che una personalità di quel rilievo, diciamo, insignita del premio Nobel per la pace, abbia poi, come dire, assistito silenziosa a tutto quello che è accaduto e che sta accadendo. Ora, nella sentenza del Tribunale Permanente dei Popoli, che è una sentenza in lingua inglese, ma è stata tradotta e commentata anche su riviste italiane, per esempio su Questione Giustizia, una rivista promossa dalla Magistratura Democratica, che si trova online, sono state accertate una serie di fatti. Innanzitutto nei confronti di minoranze diverse dai Rohingya, perché c'è un'altra minoranza, i Kachin, che 1,5 milioni di individui risiedono nel nord dello Stato del Myanmar, aspirano al riconoscimento di uno Stato autonomo, e nei loro, c'è una sorta di conflitto armato strisciante fra i Kachin e lo Stato del Myanmar, ma in realtà a pagare il prezzo di questa sorta di conflitto armato strisciante con lunghi armistizi, eccetera, sono le popolazioni inermi. E infatti c'è tutto il campionario dei crimini contro l'umanità, le detenzioni arbitrarie, l'imposizione di lavori forzati, le torture, le sparizioni di oppositori, di personaggi scomodi, gli stupri di massa, gli abusi sessuali. Lo stupro è diventato uno strumento di violenza e di umiliazione sistematico nel compimento dei crimini contro l'umanità. L'uccisione di civili inermi e poi la distruzione, la confisca di case, di chiese, di altri monumenti, perché c'è un tentativo di distruggere anche l'identità culturale di un popolo. Questo lo accennerò di qui a un attimo, forse il primo passo del genocidio. Prima distruggo la tua identità culturale, la tua identità, diciamo, il tuo profilo umano, e poi passo alla distruzione fisica. Anche le minoranze musulmane sono sottoposte a vessazioni, a violenze e a discriminazioni nell'accesso all'educazione, all'assistenza sanitaria, nella possibilità di avere moschee o di restaurare moschee. Anche qui è negata la loro libertà religiosa. Ci sono, diciamo, degli insediamenti nei quali non possono vivere perché sono zone, dicono, free Muslim, cioè libere dai musulmani. Ma è chiaro che accanto a questi elementi, che sono importanti, perché anche il Tribunale con l'ampiezza di sguardo che ha guardato a tutta la situazione presente in Myanmar e ha accertato questi dati e li ha qualificati come crimini contro l'umanità e, nel caso dei Kachin, anche come crimini di guerra. Naturalmente il picco, la vetta, l'orrore maggiore è nei confronti dei Rohingya. È una minoranza etnica, linguistica e anche religiosa, perché sono prevalentemente musulmani, a cui è stata sempre negata, lo accennavo prima, innanzitutto la cittadinanza. Ci sono dei meccanismi legali, tecnicalità che qui sulle quali non è il caso qui di soffermarsi, ma in base ai quali i Rohingya, che vivono da tempo immemorabile in quelle zone, non sono considerati cittadini, sono considerati degli emigrati dal Bangladesh. Questa è la loro posizione. E anche nei loro confronti, sistematicamente, prima della deportazione di massa che è avvenuta, diciamo, nell'ultimo anno, c'è stato, come dire, il campionario di orrori a cui accennavo: le sparizioni, gli stupri di massa, le esecuzioni senza giudizio, le distruzioni di casa. Ecco, Il tribunale che è stato detto è un tribunale della ragione, però ragiona a partire dagli atti e dagli atti di diritto internazionale, ha misurato le condotte nei confronti dei Rohingya sul metro del diritto internazionale e della Convenzione di Ginevra. La Convenzione di Ginevra ha accolto del genocidio una definizione che fu proposta dal giurista polacco Rafael Lemkin, che scrisse: per genocidio si intende la distruzione di una nazione o di un gruppo etnico, ed aggiunse: il genocidio ha due fasi. La prima consiste nella distruzione della identità nazionale del gruppo oppresso, la seconda nella imposizione della identità nazionale dell'oppressore. Basta che noi ricordiamo la vicenda degli ebrei, della persecuzione degli ebrei, delle leggi discriminatorie nei confronti degli ebrei, per capire come questa definizione di genocidio sia perfettamente calzante. Infatti in quel caso, che appartiene alla storia, all'esperienza drammatica di tutti noi, ci sono state esattamente queste due terribili fasi, una dopo l'altra. Ora, nel caso dei Rohingya, l'elemento materiale del crimine di genocidio, quale previsto dalla Convenzione di Ginevra, c'è. L'elemento oggettivo, quello che i giuristi, i penalisti chiamano l'elemento oggettivo, perché c'è stata l'uccisione sistematica di membri del gruppo, perché ci sono state lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo, perché si è sottoposto deliberatamente, questo è un passaggio importante della Convenzione di Ginevra, l'intero gruppo, in questo caso gruppo etnico, a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica totale o parziale. Cioè il genocidio si può attuare anche non attraverso l'uccisione diretta, ma attraverso una serie di pratiche che appunto siano di fatto distruttive di una popolazione. E c'è l'elemento psicologico del crimine, la mens rea del crimine di genocidio, cioè l'intenzione proprio di distruggere in tutto o in parte un gruppo diverso per etnia, diverso per razza, diverso per religione. E anche questo elemento, alla luce delle cose che abbiamo detto, il diniego di cittadinanza, la discriminazione sistematica, l'affermazione che i Rohingya sono solo degli immigrati dal Bangladesh, accanto alle violenze fisiche, integrano l'elemento diciamo, psicologico di questo reato nei confronti dei Rohingya. E il Tribunale, qui chiudo su questo aspetto, perché voglio passare a un altro atto che invece è un atto è un tema di un vero e proprio giudice internazionale che dovrebbe avere il potere coercitivo di cui non dispone il Tribunale. Il Tribunale ha anche concluso la sua sentenza, proprio perché è una sentenza di ragione, con una serie di raccomandazioni, di indicazioni che sarebbero in grado appunto di attenuare o di far cessare, di porre fine a quello che sta accadendo. E prima di tutto il ripristino di una democrazia effettiva, il riconoscimento della cittadinanza, il riconoscimento di diritti di partecipazione alla vita sociale, economica e politica del Paese, ricordo l'articolo 3 della nostra Costituzione, e anche garantire il funzionamento della giustizia, perché un altro dei tratti disperanti della condizione di questo popolo è che non hanno nessuna autorità a cui denunciare i crimini di cui sono vittime. Questo lo hanno detto più volte. Non possiamo, perché? Perché i crimini sono commessi dall'esercito e l'esercito è praticamente la sola autorità presente in quei territori, oppure la polizia è connivente e non c'è un giudiziario degno di questo nome a cui il singolo cittadino possa rivolgersi. Ed è, quando parliamo del giudiziario, capiamo come situazioni estreme come questa spieghino bene che significa avere un giudiziario, un potere giudiziario indipendente e capace di intervenire a tutela del singolo. Come ho detto, questo primo atto, che è stato reso un anno fa, si intreccia con un'iniziativa più recente, perché sulla scorta di quello che è accaduto, cioè la denuncia, poi alla fine il Tribunale, lo ricordava Franco Ippolito, è partito da solo su questa situazione, perché è partito molto prima che sia esplosa l'informazione su Rohingya, ma poi c'è stato un momento diciamo di diffusione di informazioni su questa crisi. E quindi una pressione che ha fatto sì che sia maturata un'iniziativa della Corte Penale Internazionale, che è, come sapete, il giudice scaturito dallo Statuto di Roma, dalla Convenzione di un larghissimo numero di Stati. Ora, che cosa ha chiesto? C'è un procuratore presso la Corte, oggi è una gambiana, Feta Ben Saoudi, se pronuncio bene. C'è un procuratore che è un meccanismo particolare, non può agire autonomamente, deve chiedere alla Corte l'autorizzazione a svolgere delle indagini vere e proprie. Può accertare, può raccogliere alcuni materiali, ma può richiedere alla Corte, deve richiedere alla Corte l'autorizzazione a svolgere indagini. E la Corte, attraverso un suo organo, la Camera Preliminare, la Pretrial Chamber, decide se il procuratore può o meno avviare un'indagine preliminare. In questo caso è stato posto una questione ancora anteriore, cioè il procuratore ha chiesto se la Corte abbia giurisdizione su quello che accade in Myanmar, ma attenzione, e qui vediamo i limiti e le peculiarità del diritto internazionale, ha chiesto se si possa esercitare la giurisdizione e se si possa svolgere indagini preliminari in quanto la Corte ritiene di aver giurisdizione non su tutti i crimini commessi in Myanmar, ma su un crimine specifico. La deportazione dei Rohingya, perché sotto la pressione, sotto la pressione della violenza, moltissimi Rohingya, circa 700.000, sono passati, si sono rifugiati in Bangladesh, se si possa avere giurisdizione su questo che è un altro crimine contro l'umanità, cioè la deportazione dei Rohingya dal Myanmar in Bangladesh. Ora, perché questo oggetto così limitato? Per un motivo, semplice, ma anche duro da digerire. Cioè la Corte Penale Internazionale è un organo che è legittimato da una convenzione. Ora, lo Stato del Myanmar non è parte della convenzione, cioè rifiuta di essere, parte della Convenzione dello Statuto di Roma, e quindi dice: su di me non avete nessuna giurisdizione. Il Bangladesh, invece, è uno Stato parte della Convenzione. E quindi, si è scelta questa via, che è una via realistica, comprensibile, cioè di dire: possiamo affrontare questo problema, posto che avviene una deportazione in un paese che è membro di un'intera etnia, in un paese che è membro dello Statuto di Roma, la Corte può o no avere giurisdizione? Questa è stata la domanda. Ora, voglio chiarire un aspetto. Questa questione è ancora preliminare all'esercizio delle indagini preliminari. Come voi sapete, la giurisdizione è la cosa che si decide prima. Prima si decide se un giudice ha giurisdizione, ha competenza, e poi si procede ulteriormente. Ora, qui siamo in una fase, quasi preliminare, perché non è stata ancora chiesta l'autorizzazione a iniziare le indagini, ma è stato chiesto appunto che si risponda sulla giurisdizione. Ora, la Corte si è posto il problema, come sempre si pongono i giudici, ma è una questione concreta o mi state chiedendo un parere astratto? I giudici non danno mai pareri. Adesso non so quanti di voi si occuperanno di diritto, ma questo è un tema ricorrente. I giudici non danno mai pareri, quindi vogliono sempre sapere se la questione sulla quale li si interroga, in questo caso sulla giurisdizione, è concreta o meno. La risposta è stata positiva, anche se c'è stata un'opinione dissenziente di un giudice francese, che ha detto: io sono d'accordo su tutto, ma penso che questo quesito sia ancora astratto. La Corte ha detto: sì, il crimine, c'è un crimine presunto sul quale si può lavorare. Il crimine è la deportazione. Ha distinto, ha detto: guardate che nello Statuto di Roma c'è il trasferimento forzato o la deportazione. E ha distinto le due ipotesi. Ha detto: il trasferimento forzato sia quando un gruppo etnico viene spostato dall'uno all'altro luogo dello stesso Stato. Sia invece deportazione quando un gruppo etnico viene spostato, sospinto, violentemente sospinto in un altro Stato. Quindi in questo caso ha detto: c'è un'ipotesi, appunto, l'ipotesi che dobbiamo contemplare è il crimine di deportazione. E poi ha aggiunto: la deportazione è un crimine a forma libera, cioè può essere realizzato in molti modi. E allora tutta la serie di pratiche violente di cui abbiamo parlato prima, le uccisioni, le discriminazioni, la riduzione in condizioni di difficoltà economica, di difficoltà anche di sopravvivenza, possono integrare gli estremi della deportazione. E siccome la competenza c'è quando anche uno solo degli elementi del crimine avvenga in uno Stato membro, e il Bangladesh lo è, questa pressione, diciamo, che ha spinto a superare i confini, a rifugiarsi in Bangladesh, è un crimine configurabile astrattamente come deportazione ed è un crimine su cui noi possiamo decidere. Ora, c'è una cosa ulteriore, perché tutto questo sembra molto, molto, molto impacciato, molto lento, molto lontano. In realtà, nelle sue osservazioni finali, la Pretrial Chamber, la Camera Preliminare, ha detto: vabbè, tu ci hai chiesto una risposta sulla giurisdizione. Noi ti abbiamo dato una risposta affermativa sulla giurisdizione, ma vedi che i materiali e gli elementi di conoscenza per un'indagine ci sono già, cioè c'è davvero un intervento quasi sollecitatorio, ha detto, come dire, il giudice ha visto le condizioni perché l'indagine proceda più rapidamente e si è rivolta al procuratore, che ancora peraltro non ha richiesto formalmente l'autorizzazione alle indagini, dicendogli: ma hai già materiale, il materiale di cui disponi è un materiale che già permette, diciamo, una compiuta indagine, un'indagine preliminare. Questo è lo stato dell'arte di questa iniziativa, che non va sottovalutata, come ho detto, anche se mostra limiti e difficoltà di un diritto penale internazionale che è sempre soggetto a rapporti di forza, a interessi economici. Io chiudo dicendo questo. Credo che questa occasione, e proprio il fatto che ho messo due atti a confronto, con le loro diversità, con le loro peculiarità, questa occasione, anche in una sede così solenne come quella della Camera dei Deputati, possa rappresentare per noi un momento di iniziativa ulteriore rispetto alla sentenza che abbiamo reso a Kuala Lumpur. Io credo che, siccome il Tribunale Penale Internazionale, come ho detto, si è comportato come un tribunale, tant'è vero che ha anche rispettato il principio del contraddittorio e ha invitato le autorità del Myanmar a intervenire in giudizio, esattamente come ha fatto il giudice ufficiale, la Pretrial Chamber, che ha invitato lo Stato del Myanmar a esporre il suo punto di vista e le sue deduzioni. E lo Stato del Myanmar ha detto all'uno e all'altro: non intendo intervenire. E in particolare alla Corte Penale Internazionale ha detto: ma io non sono uno Stato membro e quindi non riconosco la vostra autorità. Allora, siccome il Tribunale Permanente dei Popoli ha raccolto materiali, testimonianze, come ho detto, anche testimonianze audiovisive, anche materiali di varia natura, lo ha fatto nel rispetto del principio del contraddittorio e delle forme di un corretto processo, io credo che sia possibile offrire ufficialmente i materiali raccolti al procuratore presso la Corte Penale Internazionale perché li utilizzi per la sua indagine. Come ho detto, sono documenti di prima mano, sono documenti che hanno un significato, diciamo, sicuramente acquisibile agli atti del procedimento ufficiale, anche se, come è chiaro da quello che ho detto, il giudizio poi del Tribunale Permanente dei Popoli è stato un giudizio molto più ampio, perché si è parlato appunto di crimini contro l'umanità, si è arrivati a una qualificazione giuridica di crimini contro l'umanità e di genocidio. Ma siccome appunto la deportazione è a forma libera, quindi tutto quello che noi abbiamo raccolto sulle violenze, sulle uccisioni, sugli stupri di massa, può essere utilmente riversato alla Corte Penale Internazionale, proprio perché rappresenti un altro degli sbocchi di un'iniziativa che io considero importante che ci permette, io credo, insomma, di continuare un modo d'essere del Tribunale Permanente dei Popoli, che attraverso tante iniziative dimostra di voler concorrere per la piccola parte che può, all'affermazione e al rispetto dei diritti umani che sono tante volte violati. Vi ringrazio. sistema internazionale, soprattutto nel diritto internazionale, nelle giurisdizioni della Corte Penale Internazionale, sposano, sapendo che la gran parte del territorio sarebbe stato fatto da giovani, da giovani studenti, anche allievi dei nostri ospiti relatori, chiedo scusa, sia da allievi della scuola di giornalismo della Fondazione Bazzo, ci è sembrato che l'informazione sui fatti, sulla singola vicenda, dovesse essere accompagnata da un panorama, come dire, più generale di riflessione giuridica. E per questo sono qui presente sia il professor Luigi Ferraioli, professore di filosofia del diritto tra i più noti nel mondo, sia il professore Giuseppe Palmisano, che è professore di diritto internazionale, e a loro affidiamo questo panorama entro cui si colloca la vicenda, che poi seguirà nelle parole dei nostri ulteriori ospiti, a tornare sulle questioni dei Rohingya. Professor Ferraioli. Grazie. Sì, purtroppo il genocidio dei Rohingya non è il solo crimine, non è il solo crimine contro l'umanità, non è neppure il solo genocidio. Ciò di cui dobbiamo prendere atto nel 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è una crescente divaricazione tra il diritto e la realtà, tra le promesse, le norme vincolanti formulate in quella straordinaria stagione costituente all'indomani della Guerra Mondiale, 45-48, quando furono emanate le costituzioni rigide in Italia, in Germania, in Giappone, e le grandi carte internazionali, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e prima ancora la Carta dell'ONU, fra quelle promesse e la realtà. Una divaricazione crescente che rischia di squalificare come una lustra ideologica la proclamazione dei diritti e della pace, contraddetta in maniera vistosa da quel che accade. Io credo che per comprendere le dimensioni di questa distanza dobbiamo tornare con la mente a quella stagione, la stagione, secondo ormai una formula consueta, ricordata qui già da Franco Ippolito, da Nello Rossi, dei mai più, del mai più al fascismo, al nazismo e ai loro orrori, agli orrori della guerra. In quella stagione fu disegnato un nuovo modello, un nuovo paradigma, sia della democrazia che delle relazioni internazionali. E questo modello fu disegnato con un'unica operazione, e cioè la costituzionalizzazione, la pattuizione a livello statale, a livello internazionale, di principi che nessuna maggioranza può violare: il principio della pace innanzitutto, l'uguaglianza di tutti gli esseri umani, i diritti fondamentali e l'uguaglianza di tutti nei diritti, non solo nei diritti di libertà, ma anche nei diritti sociali, alla sopravvivenza, alla salute, all'istruzione, alla sussistenza. E dunque cambiò, grazie a questa stagione costituente, l'idea stessa di democrazia, che non consiste soltanto nel potere della maggioranza, ma consiste anche nei limiti e nei vincoli a qualunque potere. Ciò che qualunque maggioranza non può decidere, ciò che nessun potere, né politico né economico, né pubblico né privato può decidere la soppressione della vita umana, la limitazione delle libertà fondamentali, è ciò che qualunque maggioranza deve decidere. I diritti alla salute, all'istruzione, alla sussistenza, alla sopravvivenza. E dunque un vero mutamento di paradigma che ha cambiato la natura dei nostri sistemi politici, che ha messo, diciamo, al bando l'idea stessa di sovranità, come, secondo una classica definizione, potestà assoluta, non dipendente dal diritto, potestas legibus soluta, la definizione di Baudin, perché a livello internazionale gli Stati non sono più privi di limiti e di vincoli, avendo sottoscritto la Carta dell'ONU e le tante carte dei diritti, e quindi accettato quel limite, costituito innanzitutto dal divieto della guerra e dal rispetto dei diritti umani, che hanno trasformato tutte le persone in soggetti di diritto internazionale, in quanto gli Stati che hanno, per l'appunto, sottoscritto questi patti, si sono subordinati anche a livello internazionale al loro rispetto e alla loro attuazione. E per altro verso è cambiata la democrazia all'interno degli Stati, che non consiste più soltanto nel potere della maggioranza, ma anche nei limiti e nei vincoli. Anzi, la maggioranza ha come ragion d'essere l'istituto, diciamo, l'artificio giuridico, la tutela e la garanzia dei diritti fondamentali di tutti. Ebbene, oggi dobbiamo registrare questa gigantesca distanza tra il dover essere e l'essere del diritto, tra il dover essere costituzionale, tracciato dai trattati, e l'essere delle relazioni di fatto tra gli Stati. Questa divaricazione è cresciuta soprattutto in questi ultimi anni. Franco Ippolito ha ricordato l'origine del Tribunale Permanente dei Popoli, del Tribunale d'Opinione. E questo Tribunale d'Opinione, questi Tribunali d'Opinione hanno una specifica funzione, quella di evidenziare, denunciare una lacuna, e cioè di rendere evidente l'ineffettività del diritto internazionale, di rendere di pubblico dominio, di informare l'opinione pubblica su questa gigantesca contraddizione tra il dover essere e l'essere della realtà, il dover essere giuridico, costituzionale, disegnato dalle tante carte che affollano i nostri ordinamenti, e la realtà fatta di crimini, di violazioni, di inattuazioni. Non soltanto l'assenza di una giurisdizione internazionale, e io credo che l'azione del Tribunale d'Opinione non è stata estranea all'istituzione nel 1998, proprio la denuncia di questa lacuna all'istituzione della Corte Penale Internazionale, dalla quale peraltro aspettavamo molto di più, e che tuttavia, sia a causa dei limiti giuridici, dei vincoli procedurali, sia a causa della mancata sottoscrizione da parte degli Stati più potenti, di fatto ancora largamente, diciamo, al di sotto delle aspettative. Ma il Tribunale dei Popoli e la nostra riflessione giuridica e politica non ha il compito soltanto di denunciare la mancanza di garanzie giurisdizionali, ma anche la mancanza di quelle che possiamo chiamare le garanzie primarie, Stabilire il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, stabilire l'uguaglianza, prendere sul serio questi principi, non come declamazioni retoriche, ma come norme vincolanti, significa, avrebbe dovuto comportare una gigantesca opera di attuazione di questi diritti. La costruzione di funzioni e di istituzioni di garanzia della salute, dell'istruzione. Un tratto caratteristico dei diritti fondamentali è che questi diritti, diversamente dai diritti patrimoniali, che nascono simultaneamente agli obblighi e ai divieti ad essi corrispondenti, il credito insieme al debito, la proprietà insieme al divieto di lederne o impedirne il godimento, i diritti fondamentali sono norme che richiedono legislazione di attuazione. Questo vale ovviamente nelle democrazie nazionali, nelle nostre democrazie. Stabilire il diritto alla salute significa l'obbligo della sfera pubblica di introdurre il servizio sanitario nazionale, gratuito, e cioè l'assistenza sanitaria gratuita ed uguale per tutti, e lo stesso vale per il diritto all'istruzione. Non basta stabilire i diritti, perfino il diritto alla vita senza il codice penale, senza una legge di attuazione che vieti l'omicidio e metta il bando alla pena di morte, sarebbe un diritto di carta. Ebbene, quest'opera di attuazione, che altro non è che la costruzione della democrazia, che è tutta prevalentemente presa sul serio, attuazione delle promesse costituzionali, non è avvenuta a livello internazionale o è avvenuta in piccolissima parte ed è perfino in crisi nei nostri ordinamenti. In Italia, dopo i primi 30 anni della Repubblica, che abbiamo avuto non a caso simultaneamente la costruzione dello Stato sociale, la produzione di leggi di attuazione, la legge sulla sanità, sull'istruzione, simultaneamente il decollo, la crescita economica, e lo stesso è avvenuto in Germania. Italia e Germania erano cumuli di macerie e sono diventate tra le potenze, diciamo, economiche più avanzate, a riprova del fatto che la garanzia dei diritti sociali, contrariamente ad un luogo comune delle ideologie liberiste, non è un lusso, ma il primo investimento produttivo. E la stessa cosa avrebbe dovuto avvenire a livello internazionale. Abbiamo istituzioni di garanzia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la FAO, che tuttavia sono sprovvisti dei mezzi necessari a garantire la salute e l'alimentazione di base a miliardi di persone che muoiono di fame o di malattie non curate. Ebbene, il Tribunale dei Popoli è un tribunale d'opinione che ha il compito di evidenziare questa contraddizione e denunciare questa illegittimità, che non è riscontrabile soltanto attraverso la lettura della realtà con le lenti molto restrittive del diritto penale. Il diritto penale richiede garanzie molto rigide a tutela dell'innocente, la responsabilità personale, la determinatezza del fatto, l'identificazione tassativa dell'azione punibile. No, questa divaricazione ha una portata ben più vasta di quella espressa, ovviamente nella forma più inaccettabile, più intollerabile, più drammatica, espressa dai crimini contro l'umanità. I crimini contro l'umanità sono gli orrori estremi che richiedono l'intervento della giustizia. Ma al di là di questo c'è una divaricazione che va al di là del diritto penale. Nella Carta di Algeri del 1976, 42 anni fa, lo ricordava Franco Ippolito, fu stabilito un nesso fra diritti dei popoli e diritti individuali. Un nesso molto interessante sul piano teorico che consente di ridefinire la nozione stessa di popolo e anche di diritti dei popoli. Popolo è ciò che è accomunato, una vecchia definizione di Cicerone, dall'identità dei diritti. E crimini contro i popoli sono quei crimini che non offendono le persone in quanto individui, ma in quanto appartenenti a comunità, che quindi hanno una portata offensiva ben più vasta. Ovviamente il crimine per antonomasia dei popoli è il genocidio, ma lo è anche la guerra. La guerra, che ovviamente produce morti non soltanto nei popoli contro cui è dichiarata, ma anche fra gli stessi soldati che vengono mandati in guerra. C'è una frase di Kant molto, molto forte sull'illegittimità degli eserciti. In forza trattano i loro cittadini del bestiame mandato al macello. L'esercito, l'idea stessa di guerra, contraddice l'idea stessa di dignità della persona e i diritti umani in quanto tali. E la guerra è un classico crimine contro i popoli, non contro singoli individui che sono solo delle divise, sono solo delle entità sconosciute, ma precisamente popoli. E i popoli si identificano anche grazie a questa identità dei diritti e a questi crimini di cui in quanto popoli sono vittime. E tuttavia, già ne parlammo 2 anni fa in un convegno che si svolse proprio qui alla Camera per ricordare, per celebrare i 40 anni dalla Carta di Algeri, la competenza del Tribunale d'Opinione e comunque l'oggetto della nostra riflessione non può essere soltanto costituita dai crimini trattabili dal diritto penale e neppure dai soli crimini commessi dagli Stati, una figura di cui sicuramente parlerà Palmisano. Ci sono violazioni dei diritti che non sono trattabili dal diritto penale, che chiamammo crimini di sistema, che non sono fatti naturali, come i terremoti, sono il prodotto delle nostre politiche. Pensiamo alle decine di migliaia di migranti che affogano nel tentativo di arrivare nei nostri paradisi democratici, spinti dalle guerre, dalle persecuzioni, dalla miseria, dalla fame, che è il prodotto anche delle nostre politiche. E certamente non sono trattabili con il diritto penale, tanto più che queste politiche vengono spesso sorrette da leggi, leggi che non esito a chiamare razziste, razziali. Pensiamo alla legge che introduce il reato di clandestinità, in forza del quale si può essere puniti per quel che si è e non per quel che si è fatto. Ma pensiamo anche ai milioni di morti ogni anno per la mancanza di farmaci salvavita. 40 anni fa furono identificati 270, oggi sono 360. Si tratterebbe di un'operazione relativamente facile o quantomeno possibile, la distribuzione dei farmaci salvavita, la cui mancanza è legata assai più al mercato che alla volontà politica, perché questi farmaci non vengono più prodotti in molti casi perché riguardano malattie debellate nell'Occidente e quindi non hanno una domanda nel mercato. E si tratta di milioni di morti ogni anno. Pensiamo ai milioni di morti per mancanza dell'alimentazione di base o anche dell'accesso all'acqua potabile o alle condizioni di estrema miseria a cui sono ridotte. Pensiamo al fatto che queste popolazioni sono le più vulnerabili, nel senso che subiscono più delle popolazioni ricche dei nostri paesi gli sconvolgimenti climatici, le alluvioni, le desertificazioni, le aggressioni all'ambiente, che sono il prodotto delle attività industriali dei paesi più ricchi. Noi possiamo alzare i termostati, mettere l'aria condizionata, non ci spaventano, almeno nei tempi brevi, questi sconvolgimenti, che viceversa producono le devastazioni da cui fuggono queste persone, fuggono dalle condizioni di miseria, dalle condizioni di disastro ambientale dei loro paesi, e qui incontrano le nostre leggi contro l'immigrazione, i nostri muri, i nostri fili spinati, fuggono la disuguaglianza per essere respinti dalle nostre politiche contro le differenze. E quindi con una doppia lesione del principio di uguaglianza, non soltanto la spaventosa disuguaglianza economica, ma anche la discriminazione delle loro identità, persone illegali, non persone. Possiamo considerare tutto questo un fenomeno naturale? Evidentemente sono crimini non trattabili con il diritto penale. Il diritto penale non c'entra assolutamente niente, ma non sono fatti naturali e quindi dobbiamo identificarli come crimini, emancipare la criminologia dal diritto penale e prendere sul serio quelle carte. E ancora, perché l'elenco sarebbe lungo, le centinaia di migliaia o milioni di persone che muoiono ogni anno per l'uso delle armi da fuoco. Nel mondo ogni anno si calcola ci sono 450.000 omicidi e poi ci sono qualche centinaio di migliaia di suicidi e poi ci sono gli infortuni per l'uso dell'arma da fuoco. E poi ci sono, si calcola, adesso sono calcoli molto approssimativi, 1-2 milioni di morti per le varie guerre che sono in atto sul pianeta. Ebbene, la gran parte di questi morti sono prodotti dall'uso di armi da fuoco. Sono il risultato della disponibilità, dell'accesso, facile accesso, all'uso delle armi da fuoco. I dati statistici sono spaventosi. In Italia, dove ancora perché viceversa si sta facendo propaganda a sostegno della legittima difesa con armi da fuoco, si sta incitando le persone ad armarsi, il numero degli omicidi nel 2017 è stato 397. E cioè una cifra irrisoria in una popolazione di 60 milioni di persone. Naturalmente se poi questi omicidi vengono raccontati tutti i giorni in televisione da quella fabbrica della paura che è diventata la politica e la televisione, naturalmente abbiamo l'impressione di vivere nella giungla. Ma ancora sono relativamente pochi, sicuramente molto meno di quanto non fossero alla fine dell'Ottocento, quando si dice che le città erano sicure, ed erano in Italia con una popolazione della metà, 4.000 o 5.000 all'anno, e ancora negli anni 50 erano 2.000-2.500, perché nessuno va in giro armato in Italia, non fa parte del nostro costume. Il numero degli omicidi in Brasile è 66.000, una popolazione tre volte, quattro volte superiore. E lo stesso avviene negli Stati Uniti, in Messico, in Colombia, dove tutti si armano per paura. E naturalmente questo produce, attraverso l'uso delle armi da fuoco, le centinaia di migliaia di morti ogni anno a beneficio unicamente dei produttori di armi. Che ci vorrebbe a mettere fuori legge il commercio, la produzione delle armi, a realizzare, badate, quel monopolio statale della violenza che fu teorizzato dal teorico dello Stato assoluto, Thomas Hobbes, 1648, con il Leviatano. Il passaggio dallo stato di natura allo stato civile avviene con il disarmo dei consociati. Il passaggio dallo stato di natura allo stato civile della comunità internazionale dovrebbe avvenire con l'attuazione del capo settimo della Carta dell'ONU, e cioè il disarmo degli stati e il monopolio in capo all'ONU della forza, che dovrebbe essere una forza ovviamente sempre minore se gli stati non sono armati. Mettere fuori legge le armi, farne un tabù, escluderli. E qui il diritto penale avrebbe la funzione ben più che la droga, perché la droga serve contro se stessi. E certamente le armi non si coltivano nei giardini o nei campi. In Medio Oriente, pensiamo al terrorismo, non ci sono fabbriche di armi, sono prodotte da noi. E lo stesso vale per il problema della fame nel mondo. Un teorico della disuguaglianza, Thomas Pogge, ha scritto che il problema della miseria, della povertà, della fame è un problema gigantesco ma anche molto piccolo. Basterebbe, per levare dalla fame, dalla miseria e dalle malattie i 2 miliardi più poveri dell'umanità, l'1% del PIL mondiale, 1,15 per l'esattezza, meno del bilancio militare degli Stati Uniti. Ed è evidentemente un segno non soltanto di illegittimità, di declino dei diritti fondamentali e dei principi di giustizia scritti nelle tante carte, ma anche di irrazionalità e di mancanza di realismo. Non affrontare questi problemi con una politica globale, politica interna del mondo, non ha senso ormai parlare di politica estera, che è la politica dell'uguaglianza. Non ci vorrebbe molto, basterebbe per l'appunto fornire le istituzioni di garanzia che già esistono, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, istituirne delle altre a tutela dell'ambiente, dei mezzi sufficienti, in grado per l'appunto di provocare lo sviluppo, in grado di ridurre le ragioni dell'immigrazione. Oggi stiamo andando indietro per una paradossale alleanza fra le due culture anti-egualitarie. Da un lato i sovranismi e dall'altro il liberismo. I sovranismi che si illudono che gli stati possono recuperare la loro sovranità e quindi sono i principali ostacoli alla costruzione di una sfera pubblica, e cioè di limiti e di vincoli sovranazionali ai poteri globali e sempre più selvaggi, economici, finanziari e anche politici, che in assenza di limiti e di vincoli, inevitabilmente per una legge, lo diceva già Montesquieu, tendono ad accumularsi in forme assolute. Nel momento stesso in cui, a seguito della decolonizzazione, lo Stato è diventato la forma politica anche di questi paesi poveri, è stato, per così dire, un regalo avvelenato. Stati che non contano nulla, che non hanno potere, perché si sono prodotti simultaneamente quei nuovi sovrani assoluti, invisibili, irresponsabili, che sono i cosiddetti morcati, che in assenza di una sfera pubblica alla loro altezza, in assenza di quei limiti e di vincoli imposti dalle carte internazionali, ovviamente non sono poteri, diciamo, che hanno il bene come loro ragion d'essere, e ne si può pretendere che siano tali. È la sfera pubblica che può tutelare i diritti fondamentali. E dunque si sono sviluppati come poteri che hanno ribaltato il rapporto con la politica. Non è più la politica che governa l'economia, ma è l'economia che governa la politica. Non sono più i parlamenti e i governi che dettano regole ai mercati, ma viceversa, si investono i capitali nei paesi in cui si può maggiormente sfruttare il lavoro, inquinare l'ambiente, corrompere i governi. Ecco, io credo che ci sia un principio di razionalità e di realismo contro questa deriva. E a sostegno di questo principio ci possa essere una novità rispetto al passato. Il fatto che rispetto al passato l'umanità è accomunata da un unico interesse, che va ben al di là dell'interesse o della ragion di Stato, dell'interesse nazionale, perfino degli interessi di classe, perché tutti rischiamo di essere vittime di uno sviluppo insostenibile che distruggerà l'ambiente e le condizioni di vita delle persone se non interverrà il diritto a limitare questi poteri selvaggi, perché tutti siamo accomunati appunto dal principio della pace, della convivenza pacifica, perché realisticamente, lo dice anche il preambolo della Carta dell'ONU, il futuro dell'umanità è affidato all'attuazione, che non sarà mai perfetta, di questa che non è affatto un'utopia, ma è l'indicazione realistica dalla quale dipende il futuro dell'umanità, e cioè la realizzazione dell'uguaglianza, della pace, sulla base dei diritti fondamentali di tutti. Grazie a Luigi Ferraioli, e dovete scusarci se non facciamo intervalli, ma i tempi ci costringono ad essere veloci e concentrati. Subito la parola al professor Giuseppe Palmisano. Grazie a Franco Ippolito, alla Fondazione Lelio e Lisli Basso, innanzitutto per aver organizzato questa iniziativa. Poi ovviamente anche per avermi invitato, un ringraziamento personale, e ringrazio anche i tanti studenti del mio corso di diritto internazionale che sono presenti qui oggi. E, perché prima di arrivare a dire qualche cosa brevemente sugli argomenti che sono al centro dell'attenzione oggi, e, perché questo ringraziamento? Perché oggi, come è stato ricordato più volte, oggi è il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E io penso che anche attraverso la celebrazione, il rinnovo dei valori, della fede in certi valori che sono quelli che troviamo nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, si non solo si tenga vivo, ma si facciano passi avanti nella realizzazione effettiva di una società migliore, di un ambiente sociale migliore tra le persone, all'interno di un solo Stato, ma anche nel mondo. E quindi mi sembra importante che le principali istituzioni politiche di un paese dedichino attenzione appunto a queste ricorrenze e attraverso queste ricorrenze a compiere passi avanti in un cammino che è quello della tutela e della promozione dei diritti umani. Dico questo e aggiungo purtroppo questo non sta avvenendo in Italia in questo momento. E ecco, qui veramente ringrazio la Fondazione Basso perché ha colmato una lacuna non del diritto internazionale, ma del nostro mondo politico, e parlamentare, che potrebbe e dovrebbe fare ben altre cose in questa direzione. Lo dico in modo volutamente polemico, pensando che proprio nello stesso momento in cui si celebra, o alcuni celebrano, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, si discute in Italia se partecipare o meno, se il governo debba partecipare o meno nei prossimi giorni al Global Compact for Migration, che è uno dei campi in cui la cooperazione internazionale volta al rispetto dei diritti di tutti, in primo luogo delle persone che per tanti motivi migrano, ma in realtà rivolta alla tutela e alla promozione dei diritti di tutti, è uno dei tanti campi, forse il più importante per certi ambiti geopolitici in cui si ritrova senz'altro l'Italia in questo momento, è uno appunto dei campi in cui si cerca di fare qualche cosa in avanti per migliorare la situazione inadeguata della cooperazione internazionale al momento attuale e comunque delle politiche degli Stati, in un settore che ha molto a che fare con i diritti umani. E se ne discute qui in Italia a livello politico, governativo, parlamentare, in termini veramente paradossali. Tra rigurgiti di una democrazia parlamentare purtroppo non ci sta caratterizzando nell'ultimo momento, ma rigurgiti fasulli, diciamo così, alibi, per cui non si va alla firma a Marrakech perché si deve pronunciare prima il Parlamento, e teniamo presente che non si tratta di un accordo internazionale, della ratifica di un accordo internazionale, per cui ai sensi della nostra Costituzione sarebbe necessario quello che non avviene quasi mai, cioè l'autorizzazione parlamentare alla ratifica, come non è avvenuta per molti accordi che hanno riguardato tra l'altro con la cooperazione militare e altro con paesi come il Niger poco tempo fa, accordi che non sono stati resi nemmeno pubblici dal Ministero degli Esteri, non solo non è stata chiesta autorizzazione parlamentare, cosa purtroppo frequente, ma addirittura è dovuta esserci una sentenza del Consiglio di Stato per dire che dovevano essere resi pubblici questi accordi. Vabbè, quindi tra rigurgiti appunto parlamentari per cui c'è bisogno di un'autorizzazione del Parlamento, che ben venga questa autorizzazione del Parlamento a partecipare a queste iniziative, ma non si usi il ritardo o la mancata sollecitazione del Parlamento come motivo per non andare lì o non partecipare a questi tipi di impegni ai quali il nostro Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio del Governo in questo momento, pochi mesi fa invece aveva pubblicamente dato il pieno appoggio di fronte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ma evidentemente oltre ai rigurgiti parlamentari ci sono chiamiamoli sovranismi, non lo so se si possono chiamare sovranismi, politiche restrittive, non voglio usare il termine di razzismo, ma insomma che in questo momento diciamo rischiano di caratterizzare la posizione del nostro Stato sul piano internazionale, cosa che non è mai stata prima, per fortuna. Dunque, ma detto questo, quindi un ringraziamento davvero, perché almeno c'è qualcuno che ancora in queste istituzioni riesce a far discutere di queste cose, a parlare dell'importanza dei diritti umani, di una politica che pensi a attuarli. E l'argomento specifico che è stato scelto per oggi, altrettanto importante che i temi generali, è quello del genocidio del popolo, o comunque del gruppo dei Rohingya. E su questo devo dire, va ancora una volta, va a merito della Tribunale Permanente dei Popoli di essersene occupato in maniera tempestiva, seria, e come diceva molto bene Nello Rossi, in questi casi non è tanto la sentenza quello che conta, ma il fatto che si sia affrontato in maniera in qualche modo pubblica e appunto seria un problema gravissimo come questo, una situazione di gravissime violazioni dei diritti umani, e lo si sia fatto in modo giuridicamente consapevole, corretto, tra virgolette, perché qual è il modo giuridicamente corretto, è difficile da dire, e, in modo anche da favorire, sollecitare istanze internazionali, ma anche nazionali, penso anche ai giudici nazionali, che invece dal punto di vista giuridico, degli ordinamenti giuridici in vigore, che sia il diritto internazionale, che sia invece i diritti nazionali degli Stati, poi rappresentano effettivamente le istituzioni che sono chiamate a applicare il diritto, a sanzionare certi crimini quando si verificano, punire le persone quando ne sono responsabili, e soprattutto fare questo in una prospettiva di deterrenza, di prevenzione, con la speranza che appunto mai più ciò che invece purtroppo ancora succede e succederà. Quindi un ringraziamento anche per aver posto questo argomento specifico. E non mi soffermo sui profili più giuridici, diritto penale internazionale o diritto internazionale penale, relativi alla questione dei Rohingya, qui a maggior ragione non sulla qualificazione di genocidio oppure no, sui problemi che si pongono di fronte e si potranno porre di fronte alla Corte Penale Internazionale, perché sono stati molto ben presentati da Nello Rossi, e vedo qui Flavia Lattanzi, che penso molto molto meglio di me potrebbe chiarire moltissimi di questi aspetti, e anzi, se permettete, vorrei segnalarvi un'opera molto importante, secondo me, curata e in gran parte anche composta da Flavia Lattanzi sul genocidio in Armenia, e che non solo uno di quei genocidi di cui il Tribunale si è occupato già parecchi anni fa, perché non solo costituisce, applica a una determinata situazione storica, ricostruisce, ecco, quegli eventi in maniera molto precisa, quasi fosse una l'istruttoria di un vero e proprio tribunale al lavoro, ma anche perché mette alla prova con quel tipo di situazione concetti giuridici, categorie giuridiche, chiarendole moltissimo e anche dove sono necessarie alcune distinzioni, che sono quelle di cui discutiamo anche oggi con riferimento ai Rohingya, e purtroppo ne abbiamo discusso con riferimento al Ruanda, alla Bosnia, in parte anche al Kosovo, e in cui probabilmente sarebbe necessario discutere anche con riferimento a altre situazioni nel mondo. Quindi lo segnalo e permettetemi di, se non voglio fare pubblicità a Flavia Lattanzi gratuita, anche il gran lavoro che ha fatto non solo al Tribunale per l'ex Jugoslavia, al Tribunale per il Ruanda, ma anche di fronte alla Corte Penale Internazionale adesso con riferimento al caso di al-Bashir del Sud Sudan, di cui la Corte Penale Internazionale si sta occupando, penso ormai dal 2008-2009, ha cominciato le indagini in quel caso, su sollecitazione, diciamo così, del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E il fatto che la Corte Penale Internazionale si stia cominciando ad occupare, nonostante tutti i problemi di giurisdizione che ci saranno e che limiteranno la possibilità di esercizio della competenza del Tribunale, del caso dei Rohingya, in fondo a non molti anni da quando si è manifestato in maniera più evidente alla cosiddetta comunità internazionale il caso dei Rohingya, secondo me è dimostrazione di qualcosa che sta cambiando molto lentamente, forse con risultati minori di quelli che ci si sarebbe potuti aspettare qualche decennio fa o anche solo nel 1998, quando è stato firmato qui a Roma lo Statuto della Corte Penale Internazionale, però è segno di qualcosa che sta cambiando e che potrebbe cambiare. È un ulteriore segno dei passi avanti notevoli, notevoli, che il diritto internazionale, che gli strumenti che il diritto internazionale mette a disposizione per la tutela dei diritti dell'uomo, per la lotta all'impunità, nel caso delle più gravi violazioni di questi diritti, lotta all'impunità di chi ne è responsabile, e anche per rendere effettivo il rispetto da parte degli Stati, che nessuno ha mai visto che cos'è, il rispetto da parte degli Stati, degli impegni che sono stati assunti dagli Stati in materia di diritti dell'uomo, è una manifestazione di passi avanti notevoli. E qui, brevemente, vorrei ricordarvi la Convenzione contro il genocidio del 1948. È per tanti, tanti decenni è rimasta una convenzione senza una corte, diciamo così. Era un problema. Un problema per almeno alcuni aspetti di applicazione di quella convenzione. Adesso la situazione non è più questa, grazie a Dio, con dei limiti di competenza ovviamente, con dei limiti di accettazione da parte degli Stati, con dei limiti nella volontà politica degli Stati, quindi. Un'istituzione di questo genere, una Corte che si occupi di perseguire e reprimere i fatti di genocidio, non solo di genocidio, adesso esiste. In questi ultimi decenni sono stati istituiti tribunali penali internazionali ad hoc, che hanno svolto, pur tra luci e ombre, un ruolo molto importante sia nella realizzare giustizia penale per certe gravissime violazioni, sia per far vedere che si può realizzare giustizia penale in questi tipi di situazioni, mettere di fronte alle proprie responsabilità individuali le persone che si prestano o realizzano comunque questi gravissimi crimini, quale che sia la loro posizione all'interno di un'organizzazione pubblica, statale o di altro genere, statale, militare, politica di, o anche giudiziaria all'interno di uno Stato. Passi avanti ne sono stati fatti, molti, sono inadeguati e probabilmente saranno sempre inadeguati se la prospettiva è quella di aspettarsi da questi passi che siano decisivi nella costruzione di un mondo migliore per tutti. E qui vengo a alcune osservazioni che a mio avviso sono necessarie per prendere, per puntualizzare, se volete, o per chiarire quella tendenza che ha manifestato adesso molto bene Luigi Ferraioli a vedere la situazione attuale, in realtà non solo quella attuale, la situazione che c'è permanentemente dal 1946-47 in poi, di tradimento di, di promesse costituzionali in nel contesto internazionale, chiamiamo così, di mancata realizzazione di un cambiamento di paradigma che ci sarebbe stato subito, insomma, all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, e dove sarebbe stata messa al bando la sovranità, come diceva poco fa Ferraioli, dove e in questa differenza tra il dover essere costituzionale, parole appunto di Luigi Ferraioli poco fa, e invece la realizzazione, la realtà, l'attuazione. E tutto questo, e quindi porta a parlare di lacune del diritto internazionale, di ineffettività del diritto internazionale, e di tradimento appunto, di mancate aspettative, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che questa non sia la prospettiva giusta. Non credo che sia la prospettiva giusta perché non c'è stata nessuna promessa costituzionale nel 1945. Non c'è stato nessun cambiamento di paradigma nel 1945 con la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che oggi celebriamo e che è stato un motore fondamentale per tanti cambiamenti che adesso vediamo più o meno in atto. E dobbiamo fare i conti, dobbiamo continuare a fare i conti con una diversità strutturale, con una diversità strutturale di ambiente sociale su cui si innesta, diciamo così, il diritto internazionale con tutti i suoi strumenti di cooperazione, e invece l'ambiente sociale che è l'umanità o l'umanità di un popolo, la collettività di un popolo organizzato in Stato. C'è una diversità strutturale, c'era, ne ho perfettamente consapevoli, non c'era nessuna volontà di superarla, non c'era nessun germe per poterla superare, questo non potrei dirlo, però c'erano veramente elementi molto molto embrionali a fronte di invece profonde resistenze, consapevolezze da parte degli stati e delle elite politiche di tutti gli stati da allora in poi. È certo che è possibile che, diciamo, cambiamenti strutturali necessari, indispensabili perché possa farsi qualche passo avanti più sostanziale del tipo di quelli che diceva Luigi Ferraioli. Possono anche avvenire questi cambiamenti strutturali molto difficilmente, molto lentamente, grazie a una, diciamo, realizzazione progressiva e creativa degli strumenti tipici del diritto internazionale, quali quelli messi a disposizione, pensati e che ancora funzionano attraverso le organizzazioni internazionali, organi di controllo, tribunali internazionali. Ci può essere molto lentamente una, diciamo, l'avvio, si può favorire l'avvio di un cambiamento strutturale, anche attraverso, diciamo, espansioni di un sistema giuridico completamente diverso e appunto con una struttura e una base sociale completamente diversa, che è il diritto internazionale anche attuale rispetto alle democrazie costituzionali, agli ordinamenti statali. Ma quello che conta perché si possa realizzare questo cambiamento strutturale non sono gli sviluppi che possono realizzarsi attraverso, diciamo, tra le righe o oltre le righe di quel sistema giuridico, ma è solo la volontà politica. È solo la volontà politica delle classi dirigenti e della società civile, nella misura in cui le classi dirigenti siano espressione della società civile. Quindi, quello che secondo me ci possiamo aspettare nel prossimo futuro e che può dare un progresso nella realizzazione di una società migliore per tutti, più giusta, dove siano rispettati i diritti dell'uomo tutti, facendo riferimento al diritto internazionale, ce lo possiamo aspettare soprattutto, non voglio dire soltanto, ma soprattutto nella misura in cui questi valori, nella misura in cui sono recepiti nel diritto internazionale, vengano realizzati all'interno degli Stati. E in primo luogo dai giudici, quando sono svincolati dal potere esecutivo, da giudici indipendenti all'interno degli Stati. E in questa direzione passi avanti cominciano a essere fatti. Ovviamente cominciano a essere fatti di più forse laddove ce n'è meno bisogno, cioè dove già certi valori e certi obiettivi, certe priorità sono iscritte anche nelle carte costituzionali e nell'ordinamento giuridico degli Stati. Ma non dappertutto è così. Quindi la permeabilità dei valori, di alcuni dei valori fondamentali, per noi fondamentali, che sono anche valori fondamentali nel diritto internazionale, la permeabilità dei sistemi statali e l'attuazione di questi valori da parte dei giudici innanzitutto, senza guardare in faccia a chi rispetti o non rispetti gli obblighi e attui i diritti richiesti da questi valori, che siano forze militari, che siano i propri governanti, che siano anche le istituzioni parlamentari legittimate dalla sovranità popolare. Ecco, io penso che quella sia la via in cui ci si può attendere realisticamente maggiori progressi anche in tempi relativamente non troppo lunghi. Perché se ci aspettiamo progressi sul piano della dinamica internazionale, del diritto internazionale, come diritto dei rapporti fra Stati, la vedo dura. Lì la vedo dura. Faceva riferimento poco fa Luigi Ferraioli ai crimini di sistema. Io per tanti anni, occupandomi di responsabilità internazionale, si è cercato di far emergere una categoria di fatti illeciti commessi dagli stati particolarmente gravi, crimini internazionali dello Stato. Certo, una cosa diversa. No, ma per dire che... E questi, poi, quali sono i crimini internazionali dello Stato? Appunto il genocidio, le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani, gli atti di aggressione e l'uso della forza contro altri stati, contro altri popoli, contro l'umanità. L'imposizione di regimi politici o di dominazione ai popoli contro la loro volontà o l'imposizione di regimi di domini coloniali, razzisti, sono questi i crimini degli stati. E nonostante sia chiarissimo a tutti sul piano del diritto, che sul piano del diritto internazionale queste configurano gravi violazioni che avrebbero... di fronte alle quali sarebbe necessario, sarebbe doveroso da parte della, tra virgolette, comunità internazionale non solo reagire contro chi le pone in essere, ma cooperare per porvi fine, eliminarvi gli effetti, ripristinare le situazioni quando è possibile, costruire garanzie per la non ripetizione di questi fatti. Sarebbe veramente necessario mettere in atto meccanismi che poi si, non voglio dire algoritmi perché non è epoca questa di evocare troppo algoritmi, ma insomma, meccanismi che poi consentono di essere messi in moto e costringere a fare qualche cosa la comunità internazionale. Ecco, tutto questo a livello di diritto internazionale, di sviluppo progressivo del diritto internazionale, si è provato a farlo e si è andati a sbattere contro la ferma volontà di molti stati di non andare avanti invece in questa direzione, di lasciare alle mani degli stati concepiti più o meno, come si dice, come uti singoli o uti universi, poco conta in realtà, quando poi uno se ne fa interprete per conto proprio di che cosa è interesse comune, e di lasciare nelle mani degli stati, più o meno volenti o non volenti, di fare qualche cosa in queste, di fronte a queste gravi, gravissime violazioni. E attraverso gli strumenti che... il diritto internazionale tradizionalmente ancora mette a disposizione, ivi compreso l'uso della forza da parte degli stati. E così abbiamo, ci troviamo ancora di fronte al dilemma se si possa, si debba intervenire con la forza armata di fronte a situazioni di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani, come è avvenuto per esempio in Bosnia prima e in Kosovo dopo, ammesso che ci fossero i presupposti per un uso della forza in quei casi, e, oppure che cosa, che quid sarebbe possibile di realizzare per evitare queste gravissime violazioni, massacri, eccidi, genocidi in situazioni come quelle dei Rohingya o del Sud Sudan. Quando poi, a sproposito e per altri interessi, qualche volta si realizza anche l'intervento con l'uso della forza per, in teoria, salvaguardare popolazioni e persone, giustamente si organizzano sessioni di tribunali permanenti per condannare quello che è avvenuto in Kosovo. Ma sono dilemmi che il diritto internazionale e gli strumenti che mette a disposizione e che non potrà che mettere a disposizione, almeno fino al futuro in cui probabilmente io e i miei figli saremo vivi, non risolve. Se non c'è un cambiamento strutturale, che non potrà essere prodotto dall'interno del diritto internazionale, del sistema internazionale. Alla luce di tutto questo, ciò nonostante, io credo che bisogna essere ottimisti, perché ricordiamoci che prima del 48 c'è stato il 45, ci sono state due guerre mondiali, c'è stata una storia e una civiltà dell'umanità in cui la persona in quanto tale non veniva presa in considerazione in nessun modo nei suoi diritti fondamentali. E adesso non è più così. Grazie. Grazie al professor Palmisano. E adesso con gli interventi che seguono torniamo più specificamente al tema e all'occasione che ha dato luogo a questo incontro. E abbiamo due ospiti stranieri e un altro ospite italiano. Sull'accordo bilaterale tra Bangladesh e Myanmar sul rimpatrio e sulla fuga continua dei Rohingya ci parlerà Mr. Nai Sanluin, che fa parte, coordinando il sistema della comunicazione, della Free Rohingya Coalition. Prego, a lei la parola. Grazie, esimio Presidente. Grazie di avermi dato la possibilità di parlare in questa occasione. Io sono un attivista Rohingya, sono un blogger e sono un coordinatore. E quindi ho studiato all'Università di Rangoon. Sono ormai in esilio da 17 anni in Germania. Prima di parlare del genocidio in dettaglio, parlerò brevemente del mio background e per spiegarvi che non siamo apolidi, noi apparteniamo al Myanmar. Dopo l'indipendenza della Birmania nel 1948, la mia bisnonna ha chiesto di diventare cittadina e le è stato risposto dal Ministero della Giustizia che non era necessario chiedere la cittadinanza perché era membro di una delle popolazioni indigene del paese. E il bisnonno faceva parte dell'assemblea costituente stabilito dal padre di Aung San Suu Kyi. Mio nonno è stato un importante ufficiale. I miei genitori erano dipendenti pubblici, mentre adesso noi siamo registrati in Bangladesh come degli... Cioè, siamo considerati degli immigrati illegali provenienti dal Bangladesh. Quindi, chi ora commette il genocidio all'epoca invece aveva riconosciuto i Rohingya come cittadini. Noi disponiamo di prove molto chiare che dimostrano che siamo cittadini da centinaia, però il governo di San Suu Kyi e i militari ci hanno sempre negato questi diritti. Abbiamo sempre sostenuto la San Suu Kyi dalla prima volta che è apparsa in pubblico. Abbiamo sostenuto la Lega per la Democrazia. Siamo stati eletti nelle elezioni del 94, ha reclutato dei membri della nostra etnia quando si trovava agli arresti domiciliari e quindi per una sorta di sostegno ombra. Sono stati descritti i Rohingya nel 92 dalle Nazioni Unite come la popolazione più perseguitata al mondo e 26 anni dopo adesso parecchie organizzazioni internazionali hanno concluso che il Myanmar continua a commettere crimini contro l'umanità, genocidio nei confronti dei Rohingya e di altre minoranze di Myanmar. Dal 76 quindi sono stati effettuati stupri di massa sulle nostre donne. Ogni organizzazione internazionale che opera nel settore dei diritti umani ha presentato numerose relazioni su questo tema e quindi noi siamo veramente disperati, vogliamo giustizia. Poco più di un anno fa sono stati uccisi 300 Rohingya e al confine 750.000 sono fuggiti nel vicino Bangladesh. Quindi noi ringraziamo il governo del Bangladesh che ospita oltre 1 milione di profughi. Apprezziamo molto gli sforzi compiuti dal Bangladesh, però i rifugiati temono un rimpatrio forzato. Vi sono delle persone anziane che sono fuggite in Bangladesh e la guerra ha causato molte morti in Myanmar e quindi centinaia di migliaia di rifugiati sono sfuggiti in Bangladesh, i quali poi sono ritornati in Myanmar e poi sono dovuti fuggire di nuovo. Per cui tutto ciò accade dal 78. Il Bangladesh ha firmato un accordo bilaterale con il Myanmar nel novembre del 2017 cercando di far rimpatriare le persone nel gennaio di quest'anno, ma già a novembre hanno cercato di far rimpatriare oltre 2000 Rohingya, i quali però si sono rifiutati perché il motivo per cui non vogliono rientrare è molto chiaro. Il genocidio continua in Myanmar. Circa 13.000 si trovano adesso in campi di concentramento, anzi vi si trovano da oltre 6 anni. Questi sono cosiddetti sfollati interni e non hanno cibo e quindi fanno solo affidamento a donazioni, a quanto viene distribuito dalla Croce Rossa e da altri organi del genere. Poi il tentativo di sfuggire di sfuggire con delle imbarcazioni dirette verso la Malesia. Vi sono stati molti naufragi, sono morte molte persone. Poi gli Rohingya sono stati obbligati a accettare una sorta di carta d'identità che però li identifica soltanto come Rohingya. Quindi quelli che non si trovano nei campi profughi vivono in una prigione a cielo aperto. Vi sono restrizioni su tutti gli aspetti della vita. Quindi i Rohingya hanno bisogno di ottenere il permesso delle autorità del villaggio per passare da un villaggio all'altro, anche se l'altro villaggio dista di pochi minuti a piedi. Dal 2016 i Rohingya non possono più spostarsi da una città all'altra, quindi le cure sanitarie sono carenti e molti muoiono per l'assenza di strutture adeguate. All'inizio del 95 i Rohingya potevano andare all'università, studiare in qualsiasi istituto senza restrizioni, ma da allora non è stato più consentito loro di studiare all'università, studiare medicina, studiare giurisprudenza, scienze politiche ed altre materie. Nel 2012, dal 2012 gli studenti Rohingya non possono più accedere all'università e quindi non possono più studiare. E adesso anche le scuole primarie e secondarie creano problemi ai giovani Rohingya perché gli insegnanti non vogliono insegnare a dei ragazzi musulmani. Nessuno può più andare a pregare nelle moschee, non c'è libertà religiosa e molti studiosi sono stati arrestati e uccisi. Per quanto riguarda i neonati, non vengono registrati. Quindi ci vuole il permesso per fare qualsiasi cosa. Quindi sono assoggettati a estorsioni, sono emarginati. Le persone vivono in costante paura. Da gennaio ad oggi oltre 50.000 sono fuggiti in Bangladesh. Il genocidio continua e continuano i Rohingya a cercare un porto sicuro. E ecco, per cui chi è profugo in Bangladesh si rifiuta di tornare è che non c'è nessuna sicurezza. Tutte le organizzazioni internazionali hanno detto che non vi è sicurezza. Quindi i Rohingya verrebbero inviati a dei campi transitori che sono praticamente i campi di concentramento. Poi adesso disponiamo di una specie di scheda individuale, mentre una volta disponevamo di carte d'identità che ci descrivevano come cittadini a tutti gli effetti. Non c'è nessuna garanzia che i Rohingya potranno tornare nei loro villaggi. E quindi chi ha lasciato il paese non potrà più tornare a casa sua. Allora, se il Myanmar è onesto per quanto riguarda il rimpatrio, deve assolutamente abolire le leggi che sono discriminatorie nei confronti dei Rohingya Perché praticamente sta impedendo qualsiasi iniziativa volta a indagare su quanto è successo. Tutti i politici di tutti i paesi al di fuori del Myanmar hanno sempre dichiarato che i Rohingya dovranno avere il permesso di ritornare. Però noi ci appelliamo all'ONU affinché vengano garantiti tutti i nostri diritti e si cessino i massacri. Quindi garantire che chi commette questi crimini non possa più essere impunito. Quindi cercare di arrestare queste campagne contro i Rohingya, i Kachin e i Chen. Quindi sono qui, parlo a nome della comunità dei Rohingya per insistere affinché la comunità europea adotti delle sanzioni molto drastiche, ivi comprese le sanzioni economiche, nei confronti di Myanmar. L'Unione Europea avrebbe fatto molto di più, avrebbe dovuto fare di più per por fine a questo genocidio. L'azione è troppo lenta, il Myanmar ha firmato la convenzione sul genocidio, e che prevede appunto che le azioni miranti al genocidio vengano punite. Quindi bisogna appellarsi alla Corte Penale Internazionale. Se si chiede che siamo rimpatriati senza che vengano apportate le modifiche di cui ho parlato, vorrà dire che i Rohingya saranno condannati alla morte e all'estinzione. Grazie. Chiedo scusa per il microfono. La parola al dottor Mangu Zarni, che è il coordinatore della Coalizione per la Libertà dei Rohingya. Prego. Buongiorno. Vorrei dire qualcosa che forse vi sembrerà strano. Invece di dire esimi partecipanti alla tavola rotonda oppure cari partecipanti all'evento di oggi, io dirò questo invece, e lo troverete forse un po' bizzarro. Cari esseri umani come me, potrei dire buongiorno in italiano o nella mia lingua Mingalaba, oppure good morning in inglese. Nonostante i diversi modi in cui noi ci salutiamo, in cui ci vestiamo, i diversi modi in cui mangiamo, c'è però qualcosa di fondamentale che accomuna ognuno di noi e ogni comunità a livello nazionale, locale, regionale, continentale, che sia una comunità religiosa o etnica. Qualcosa che è fondamentale per noi come esseri umani, e cioè il fatto che noi siamo parte dell'umanità. Noi siamo genitori, siamo professionisti, siamo padri, abbiamo sorelle, fratelli, zii, zie, compagni di vita. Quindi noi viviamo in questo sistema interstatale, che è un'invenzione, un sistema politico prodotto a tavolino, e questo ci ha insegnato a privilegiare la nostra piccola identità etnica, nazionale, regionale, rispetto a qualcosa che è molto più universale, che invece dovrebbe legarci in quanto esseri umani. Per questo io dico qualcosa che probabilmente non dite tutti i giorni, o quello che io non dico tutti i giorni e che non sentirete mai dai politici oppure dai media, e cioè: cari fratelli e sorelle, esseri umani, i diritti non possono essere garantiti finché non quando riconosciamo questo fatto, che noi innanzitutto noi siamo esseri umani prima di essere italiani, birmani, rohingya, francesi, americani. So che io dovrei parlare del mio paese, del genocidio in atto nel mio paese, il processo democratico ormai in fase di stallo e anche della guerra civile che è ancora in furia, ma vorrei parlare prima del generale e poi passare al particolare, perché gli aspetti particolari li potete anche scoprire su internet. Viviamo nell'epoca di internet, potete usare Google e scoprire qualsiasi informazione, potete imparare più cose da internet che non da una conversazione di una mezz'ora che io vorrei avere con voi. Io dedico questa breve presentazione ai miei genitori, i quali purtroppo sono già morti, e ho visto mia madre 3 volte, molto brevemente, negli ultimi 30 anni, da quando mi sono impegnato nell'attivismo. Ho visto mio padre solo 1 volta, per 1 giorno, attraverso il confine con la Thailandia, sul lato thailandese, prima che morisse. Non lo dico per fare appello alla vostra pietà, lo faccio perché ci sono alcuni tra noi che considerano i diritti umani e il benessere dell'umanità, a prescindere dal nome del gruppo, insomma, molto seriamente. Io personalmente ritengo che se non si vivono i diritti umani, se non si vivono concretamente i valori democratici, allora poi non hai il diritto di dire che credi nei diritti umani, bisogna viverli i valori. Non ci si può definire una democrazia o una persona democratica a meno che voi non siate disposti di vivere questi principi a qualsiasi prezzo, dal punto di vista professionale, familiare, eccetera. E dedico questo mio intervento ad altre 2 persone, appunto, prima i miei genitori e poi anche il mio insegnante, che è morto 2 anni fa. Il mio insegnante era un americano di origine tedesca, il quale era stato assegnato nel 1945 a Berlino, e faceva parte della polizia militare ed era uno studente ad Harvard all'epoca, e lui si è arruolato nell'esercito americano ed era stato, gli era stato ordinato di interrogare gli ufficiali dell'SS di grado basso o medio. Quindi ha interrogato decine di ufficiali dell'SS, e lui è stato il mio relatore all'università. Ho studiato con lui all'università del Wisconsin per capire la situazione del mio paese, che io comprendevo o vedevo come un paese neototalitario. E all'epoca non pensavo che fosse letale quanto la Germania nazista, però ciò che è avvenuto negli ultimi 6-7 anni invece hanno dimostrato che noi siamo una società che è dedita al genocidio. Questo genocidio non è perpetrato da pochi generali e pochi comandanti, i quali hanno dato l'ordine, no? E che in questo modo hanno ucciso migliaia di Rohingya. Cioè, i genocidi non riguardano le persone che di fatto premono il grilletto. Questo è un fenomeno a livello sociale. E come il magistrato Nello Rossi ha osservato giustamente, il genocidio, che ha parlato dalla definizione ufficiale delle Nazioni Unite, è un processo premeditato e lento di distruzione intenzionale di un gruppo intero definito sulla base di principi etnici, religiosi, nazionali, eccetera, eccetera, e vengono privati dei propri principi religiosi, commerciali, politici, la propria identità fondamentalmente. E anche il fondamento biologico di un popolo, che è il massacro di massa, che è solo uno dei cinque aspetti definiti per legge che riguardano il genocidio, ed è quello che, su cui i media e i politici si sono concentrati. Quindi questi massacri di massa, 5.000 ogni mezz'ora, le SS facevano questo ad Auschwitz e in altri campi di sterminio. Ma nel caso della Birmania, questo genocidio ormai va avanti da 40 anni. E la mia collega e moglie, che è ricercatrice, l'ha documentato nel corso di 3 anni, passando al vaglio ogni documento scritto in birmano e in inglese. Dopo 3 anni, nel 2013, 5 anni fa, noi abbiamo pubblicato la prima peer review, il primo studio, che abbiamo intitolato Genocidio a fuoco lento. E all'epoca l'uso del termine genocidio in riferimento alla persecuzione dei Rohingya in Birmania, che si stava aprendo al mondo esterno dal punto di vista commerciale, quindi aziende a Singapore, Hong Kong, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti e dal Canada, volevano investire, e gli investitori stavano investendo in quello che definivano romanticamente un'economia vergine, che potevano le aziende penetrare, tra virgolette, scusate se uso una metafora sessuale, ma questo è esattamente ciò che il paese ha dovuto subire, un'economia vergine, e che queste persone senza scrupoli potevano penetrare. E questo forse ha facilitato il genocidio che è andato avanti per 40 anni. E la grande rivalità tra il nuovo potere imperialista emergente che conosciamo oggi, la potenza anzi imperialista, cioè la Cina, e invece la potenza in declino, che sono gli Stati Uniti. E a causa di questa equazione economica e politica, i Rohingya sono diventati una pedina superficiale che poteva essere messa in gioco, ed è per questo tutti noi abbiamo assistito in questi anni al primo genocidio che noi abbiamo potuto seguire grazie ai nostri cellulari, perché questo genocidio è stato twittato, messo su Facebook, postato su Instagram da tutti noi. Perché migliaia di persone che scappavano dai loro aguzzini sono riusciti a rendere pubblico questo genocidio. Io sono un buddista, non sono solo birmano, ma provengo da una famiglia birmana buddista, i cui membri, e ogni quarto, quinto maschio della mia famiglia, diciamo, nel mio clan, servito in queste forze armate coinvolte nel genocidio fin dal 1942. Quindi io sono qui parlando in quanto rappresentante di una società che si è macchiata di genocidio, e noi lavoriamo insieme. Io lo chiamo fratello, semplicemente, anche se è un Rohingya. Lui è un altro birmano come me, la cui storia conosco, il cui desiderio è quello di far parte della nostra storia nazionale in senso lato. Io lo chiamo fratello apertamente, e io dico che lui è un cittadino di Myanmar come me. Vabbè, lui è musulmano, io sono buddista. Ma io parlo di quello che viene fatto dalla comunità buddista contro la comunità musulmana. Sono stato tacciato di essere un nemico dello Stato. Se andate in Birmania per questo motivo, trovate in prima pagina la mia foto, e io vengo dipinto come un mercenario al soldo dell'OIC, dell'ICC, oppure vengo pagato dai sauditi, tutte le calunnie che vi potete aspettare da un paese nazista e totalitario che vuole distruggere chiunque si opponga al loro potere sporco. E io sono odiato come un traditore della patria, perché quando le società attuano un genocidio vogliono che anche voi parliate con la loro unica voce, che uno si mette in riga, ma per me, no, la creatura tipo Frankenstein, lo Stato-Nazione, che cerca di distruggere la mia fratellanza con il mio amico qui, che per questo motivo io sostengo i palestinesi, e sostengo anche coloro, 1 milione di persone che si trovano in campi di formazione volontaria in Cina, no? Anche i musulmani, in realtà sono campi di concentramento. Noi non possiamo chiamare un paese, non possiamo dire che un paese che è colpevole di genocidio sta migliorando dal punto di vista della democrazia, assolutamente no. Innanzitutto, se noi vogliamo aiutare i Rohingya o comunque gli agricoltori birmani, le cui terre sono state confiscate a favore dei progetti congiunti dei militari birmani e cinesi, oppure le linee oppure le coste, le miniere di giada, oppure le foreste in cui oltre 300 investitori e aziende dell'Unione Europea fondamentalmente stanno sfruttando le nostre risorse naturali, collaborando con l'esercito della Birmania, colpevole di genocidio. Non si può parlare di transizione democratica quando i militari legalizzano attraverso la Costituzione il colpo di Stato. Cioè, qualora si sentissero minacciati dal potere del popolo attraverso sommosse o da qualsiasi minaccia esterna, loro possono fare un colpo di Stato. Abbiamo un sistema costituzionale che è stato scritto e avallato dai generali birmani che sono al potere dal 52, cioè un anno prima che io nascessi, io ho 55 anni. Allora, questi militari, questa giunta militare è la dittatura più longeva del mondo, con uno strato superficiale, una mano di vernice di democrazia, utilizzando Aung San Suu Kyi come questa mano di vernice, come lo scudo, come lo definisco io. E so che Aung San Suu Kyi è stata festeggiata e celebrata quando è venuta a Roma e Bologna, mi pare, all'Università di Bologna, la prima università europea fondata nel 1088, che le ha conferito il massimo onore, la massima onorificenza, il dottorato honoris causa, e anche il Comune di Roma credo che l'abbia insignita di onorificenze di pari livello, una cittadinanza onoraria, se non mi sbaglio. E questo è importante perché, come forse avete sentito, Parigi ha appena revocato l'onorificenza massima che ha elargito a Aung San Suu Kyi. La sua seconda città, Oxford, in Inghilterra, l'hanno tolta dalla lista delle persone, diciamo, che hanno diritto a onorificenza, eccetera, insieme anche a Glasgow. Anche il Canada ha revocato la cittadinanza onoraria, e anche la sua alma mater, St. Hugh's College a Oxford, l'università in cui ha studiato, si è rifiutata di appendere il suo ritratto nei locali dell'università. E in ogni college di Oxford c'è una sala per gli insegnanti e un'altra invece per gli studenti. E il suo college, il corpo studenti, gli studenti del suo college hanno deciso che non volevano più che il suo nome fosse più associato in qualsivoglia modo alla stanza che era stata a loro dedicata, nella sala loro dove si riunivano. Quindi c'è un motivo per cui tutte queste onorificenze sono state tolte a Aung San Suu Kyi. Perché lei è la prima vincitrice del premio Nobel che si può dimostrare sia complice e che sia colpevole del omicidio, del genocidio che è ancora in corso. E quindi io faccio appello al Comune di Roma, faccio appello all'Università di Bologna, al Comune di Roma, all'Università di Bologna, qualsiasi altra istituzione italiana, di considerare di revocare qualsiasi onorificenza che le è stata elargita in quanto antichissima civiltà, in quanto repubblica di recente costituzione. L'Italia non dovrebbe avere niente a che fare con il leader civile di questo genocidio. Lo dico, no? Persino suo padre e il mio prozio vivevano insieme al college, all'università di Rangoon, erano compagni di classe, amici. Io sono cresciuta ammirando suo padre e ho trasferito questo rispetto che avevo per il padre ad Aung San Suu Kyi, e l'ho sostenuta per 50 anni come attivista sul campo. Ma io non seguo il leader del mio paese così, anche se l'ideologia è sbagliata. Se il mio paese sbaglia, allora sbaglia. Se il mio leader sbaglia, non lo seguo più, perché io non sono una persona che segue come una pecora il leader. Sono un cittadino e per definizione un cittadino, ciascuno di voi, ciascuno di noi, ogni cittadino deve utilizzare il proprio pensiero, le proprie capacità di raziocinio per anche provare empatia nei confronti di ogni comunità oppressa che si trova all'interno dei confini della nostra nazione oppure all'interno della casa che noi condividiamo, che è comunque il nostro pianeta. E queste non sono affermazioni idealiste e campate in aria. Io ho due figlie, la mia figlia più grande all'università, la mia figlia più piccola ha 9 anni. Ogni volta che io abbraccio le mie figlie mi sento intanto una gioia incontenibile, perché sono il sangue del mio sangue, sono le mie figlie. Quindi è naturale per un genitore abbracciare i propri figli e sentire veramente questa letizia, questa gioia. Ma nel contempo io sono stato allevato nella tradizione buddista in cui noi dovremmo essere empatici e gentili non solo nei confronti degli esseri umani, ma anche nei confronti di un ragno, no? O una piccola formica, che uno la mattina quando uno si lava la faccia al lavandino, no? Io posso semplicemente aprire il rubinetto, fare scorrere l'acqua sul piccolo insetto e farlo annegare. E in realtà questa sarebbe un'azione priva di senso, crudele, solo perché così io devo fare scorrere l'acqua calda o fredda e far affogare questa piccola creatura. Io sento il dolore quando abbraccio le mie figlie insieme alla gioia, perché so che ci sono tanti genitori Rohingya che non avranno mai il privilegio di abbracciare i propri figli, mai più, perché magari sono stati gettati nel fuoco. E io ho visitato dei campi profughi Rohingya e ho anche attraversato le zone della guerra civile della Birmania nella parte orientale del paese, dall'altra parte del confine con la Thailandia o vicino al confine con la Cina, e ho visto villaggi bruciati. Ho parlato con i soldati della resistenza che vengono invece definiti come terroristi e ribelli, perché combattono contro questo Stato che è così crudele, disumanizzante e brutale. Ci sono altre minoranze etniche e minoranze religiose. Nessuno Stato nel mondo contemporaneo, nell'ordine mondiale, nessuno Stato in nessun'altra epoca della storia è puro dal punto di vista etnico, religioso, eccetera, l'impero romano, britannico, gli Stati Uniti, la Birmania, qualsiasi habitat umano è costituito da una pluralità, una diversità di persone con diverse idee, e per esempio che adorano diverse divinità, o anche agnostici o atei, se tu non credi in nessun dio. Noi abbiamo circa 8 diversi gruppi etnici principali, e i militari birmani hanno portato questo numero a 135, e i Rohingya invece sono stati eliminati dal registro nazionale delle minoranze, anche dalla memoria nazionale, dal discorso pubblico. Io ho vissuto in Birmania per 25 anni prima di trasferirmi in California, nella quale vivo da 30 anni. Non ho mai sentito nominare la parola Rohingya, non perché non esistessero in quanto popolo e non perché non avessero una storia o un'esistenza propria anche nella storia registrata della Birmania moderna dagli anni 40, ma perché lo Stato è stato così efficace. Io per questo studiavo con Robert Keol, il mio insegnante, colui che appunto interrogava gli ufficiali dell'SS, e lui mi ha detto: ma devo utilizzare il quadro neototalitario per capire la mia società. Lui che mi ha suggerito questo. Il mio ultimo commento è che ci sono 3 diversi tipi di oppressione che sono in atto adesso in Birmania. Una basata sulla classe, la maggioranza birmana buddista che appartiene alla classe dominante militare, e anche la classe politica di Aung San Suu Kyi. Insieme agiscono di concerto, no? Abbiamo il vecchio stile aristocratico di guadagnare, gli amici degli amici, giusto? Che quello che differenzia l'economia moderna da quella feudale è che in un'economia moderna il denaro genera altro denaro, nell'economia feudale antica il potere genera denaro. Quindi se uno ha delle terre, uno è un proprietario terriero, se uno ha un esercito, allora si può estrarre ricchezza dalle terre e il lavoro dalle persone. Noi abbiamo questo sistema invece, questo sistema feudale militare in Birmania, per cui la maggioranza birmana buddista, la maggioranza è povera in realtà, siamo uno dei paesi più poveri del mondo, operai e contadini sfruttati dai militari birmani, le terre vengono confiscate su vasta scala per costruire le infrastrutture turistiche, per costruire magari sistemi agricoli, monoculture, in collaborazione con i cinesi, che si parla di cooperazione. La Cina ha bisogno disperatamente di cibo, no? Quindi invece di un sistema agricolo diversificato, il confine che ci separa è lungo 1400 chilometri e le terre agricole vengono confiscate dai sodali di questa elite, no? Che cominciano e creano una piantagione di banane che vengono esportate nelle province meridionali della Cina. Questo è un tipo di oppressione. L'oppressione dei birmani buddisti nei confronti di altri birmani buddisti a seconda della classe alla quale appartengono. Il secondo tipo di oppressione è ancorata, radicata nel fatto che la Birmania, nonostante l'indipendenza politica formale, noi siamo un Stato sovrano dal 1948, prima di allora noi siamo stati una colonia britannica per 124 anni. Lo Stato della Birmania comunque ha conservato le istituzioni coloniali, le leggi coloniali e anche la mentalità coloniale e le pratiche coloniali. Ad eccezione del fatto però che i colonizzatori siamo noi, cioè i buddisti birmani. Noi abbiamo la pelle scura, l'uomo bianco se n'è andato nel 1948, il 4 gennaio. Questo è stato l'ultimo giorno in cui i britannici erano presenti a Rangoon ufficialmente come nostri padroni. Adesso le persone con la pelle scura sfruttano altre persone con la pelle scura. E questi si sfruttano, i Kuren, i Mon, come cittadini di seconda categoria. e noi, l'esercito, anzi lo Stato, ha combattuto guerre contro queste persone semplicemente perché queste persone vivono in zone che vengono considerate di importanza strategica per lo Stato birmano. Noi siamo circondati dall'India, dalla Thailandia, dal Laos, dalla Cina e poi a occidente dal Bangladesh e l'Oceano Indiano, no? E il Golfo del Bengala. E queste persone vivono in zone di importanza strategica, regione che i militari birmani considerano strategici dal punto di vista militare e commerciale. E se resistono, no, essere sottomessi, che eufemisticamente viene chiamato come costruzione dello Stato, state building, dagli esperti di scienze politiche in Occidente, e queste persone sono state sottoposte a una guerra civile terribile, una guerra interna di colonizzazione in realtà che è in atto. Infine, ma molto importante ovviamente, i Rohingya. Perché i Rohingya vengono perseguitati così, in maniera così spietata? Perché vengono emarginati corpo politico della Birmania? Ma perché i Rohingya sono un'unica comunità musulmana, abbiamo 17 diversi tipi di comunità musulmane nel paese, sparse in tutta la nazione. I Rohingya sono gli unici e l'unica comunità musulmana che vive in una zona accanto a una delle società islamiche più grandi del mondo, l'ex Pakistan una volta e dal 71 si chiama Bangladesh. Perché? Sono la comunità musulmana più grande proprio accanto a un grande paese musulmano, e per questo motivo i militari birmani dagli anni 60 hanno deciso che questa comunità poteva essere utilizzata come per esempio un fantoccio da parte di Bangladesh se Bangladesh avesse deciso di conquistare nella regione di Rakhine o Arkan, come venne chiamata questa zona di confine. Questo è un genocidio preventivo che ha avuto inizio con il tentativo pacifico, dal punto di vista demografico, ridisegnare questa regione, e così trasformandola da una regione a maggioranza Rohingya a una regione a maggioranza buddista, cioè farla diventare Birmania occidentale. Quando questo tentativo pacifico non è riuscito a cambiare i connotati demografici, no? da musulmano a birmano, allora l'esercito birmano è passato alla violenza, utilizzando diversi tipi di narrative, e hanno utilizzato il discorso della guerra contro il terrorismo degli occidentali, hanno dipinto i Rohingya come terroristi, dicendo che i militari birmani non stanno combattendo una guerra convenzionale contro dei ribelli, ma invece noi combattiamo come gli americani, una guerra come gli americani contro il terrorismo. E l'America adesso è coinvolta in 7 conflitti in 7 parti diverse del mondo dall'11 settembre. Guerra contro il terrorismo. Quindi donne, bambini, neonati, anziani vengono dipinti come terroristi o comunque terroristi in nuce. E per questo i militari birmani hanno incendiato 400 villaggi. Adesso questi villaggi, adesso ciò che rimane di questi villaggi, vengono livellati con dei bulldozer, e Aung San Suu Kyi sta invitando investitori da Singapore, Cina, Giappone, India per venire e investire e ricostruire questi campi di sterminio nella Birmania occidentale. Come sapete, la Cambogia, no? Il tribunale cambogiano ha appena emesso una sentenza per cui il regime dei Khmer Rossi effettivamente è stato colpevole di genocidio nei confronti dei musulmani ed altri popoli in Cambogia dagli anni 60 al 79. E i campi di sterminio adesso sono stati dichiarati un luogo dell'UNESCO, no? Un po' come Auschwitz, come dei monumenti dell'UNESCO. Invece di volere questo tipo di riconoscimento e ricercarlo, noi stiamo trasformando questi campi di sterminio invece in terreni che possono produrre utili e redditi. Non voglio andare avanti all'infinito, però vi sono due cose che l'Italia e gli italiani possono fare. L'Italia è uno dei paesi uno dei primi paesi fondatori dell'Unione Europea, un paese importante che non deve semplicemente fare come hanno fatto i nostri ex colonizzatori quando si parla di risoluzioni. Non bisogna solo firmare convenzioni e basta. L'Italia dovrebbe lavorare con altri paesi europei per ritirare qualsiasi privilegio commerciale, annullare qualsiasi privilegio commerciale che è stato ripristinato nei confronti di Mur della Birmania, nell'auspicio che la democrazia potesse prendere piede guidata da Aung San Suu Kyi. Ma noi sappiamo che non c'è una transizione democratica in atto, a meno che non vogliate definire un paese colpevole di genocidio un paese democratico. È una guerra che combatte una guerra coloniale nei confronti del proprio popolo, oltre al genocidio. E in secondo luogo, secondo me, l'Italia, il comandante in capo, il suo vice, che era un mio vecchio caro amico, il capo di Stato Maggiore, devono essere portati a Roma per anche... sono venuti a visitare fabbriche italiane perché volevano comprare armi dall'Italia. Tutto questo basta essere interrotto, non si può più fare. E poi Aung San Suu Kyi deve essere criticata pubblicamente e deve essere privata di qualsiasi onorificenza che l'Italia in quanto paese o altre istituzioni le hanno conferito. Niente meno di questo, cioè bisogna prendere posizione chiara in una situazione in cui c'è un genocidio in corso, in cui la guerra civile è in corso, solo questo va fatto. Grazie. Io ringrazio molto Mr. Zarni per questa sua appassionata relazione. E soprattutto per questa testimonianza intensa con cui ci ha parlato della situazione del popolo Rohingya. Fosse semplicemente per consentire a noi e a voi udire questa testimonianza, che è stata la costante dei 3 giorni di audizione da parte del Tribunale Penale, valeva la pena organizzare questo evento e colmare la lacuna istituzionale di cui parlava poc'anzi il professor Palmisano. Però c'è un'altra lacuna, ed è quella del sistema dei mass media in Italia, che è drammaticamente carente e assente. E qui una mia sollecitazione particolare va a Maurizio Torrealta e a tutto il gruppo di studenti della Scuola di Giornalismo della Fondazione, perché abbiano la piena consapevolezza della gravità, da un lato, dell'assenza del nostro sistema mass mediatico su questi problemi, e dall'altro dell'esistenza di meccanismi all'interno del sistema della stampa che ostacolano, se non impediscono, una corretta informazione. Ed è una vera gioia, e non è un caso, lo abbiamo voluto, che a questi 2 interventi segua una relazione di Emanuela Giordana, che è uno dei giornalisti, uno dei pochissimi giornalisti italiani che conosce questi problemi, che da una vita di questo si interessa e che continua lucidamente a insistere, certo, non sui giornaloni, come qualche direttore di giornale dice, o sui grandi mass media, ma sul Manifesto continua a dare corrette informazioni che sono la base anche delle nostre valutazioni. Al signor Zarni voglio confermare che troverà sempre nella Fondazione Basso un punto di riferimento per continuare a lottare per l'effettività dei diritti che la Dichiarazione Universale dei Popoli e la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani proclama. E mi è molto piaciuto il suo saluto agli esseri umani, che è l'espressione contenuta nell'articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Emanuele Giordana, prego. Grazie Franco. Convinto con una certa ingenuità che l'unica linea che un giornalista debba seguire sia quella ferroviaria, nel dicembre del 2016 sono andato in Bangladesh, ci vuole l'aereo, ma insomma la sostanza è questa, e ci sono in realtà andato per fare un'inchiesta sull'espansione dello Stato Islamico in quel paese, ma sapevo, avevo letto di questa vicenda dei Rohingya, che allora non aveva ancora questi numeri, ma che nel Natale di quell'anno si apprestava, tra Natale e gennaio, a fare arrivare a 87.000 quella che oggi noi sappiamo va chiamata deportazione e non semplicemente espulsione o fuga da un paese. Io lavoro per Il Manifesto, che è un giornale che mi dà retta, ma in quel caso, dovendo coprire le spese del viaggio, ho chiamato anche i giornaloni, perché tutto sommato ero lì, non gli sarei costato molto, e non farò i nomi per via che cane non morde cane, come sapete, ma due giornaloni mi hanno detto: ma ne abbiamo già parlato. Dico: sì, ne avete già parlato, però questa cifra è in aumento. Ma ne abbiamo già parlato, primo giornalone. Secondo giornalone: questa vicenda si è già esaurita. Dico: beh, ma 87.000, stiamo parlando del penultimo esodo, che non era il primo però, perché come è stato appena ricordato da Maung, questa vicenda risale almeno agli anni 70, se non addirittura dopo l'indipendenza. La vicenda si era così esaurita che nell'agosto del 2017 730.000 persone nell'arco di due mesi sono state deportate, questo poi lo stabilirà la Corte Penale Internazionale, in un altro paese, cioè nel Bangladesh, con una velocità e una rapidità che non ha riscontro in questo secolo. Non sono le uniche cifre grosse che noi conosciamo. Nello stesso periodo il Pakistan ha espulso 600.000 afghani nell'arco di circa sei mesi. Non so se si possa definire una deportazione, non so se sarebbe materia per un tribunale, ma comunque di espulsione si tratta sicuramente, non credo che abbiate avuto notizia di queste cose, ma non si tratta di un'espulsione con incendio di villaggi, con stupri di massa, è una cosa un po' diversa. Dunque, perché la stampa non se ne occupate, non soltanto quella italiana si è distinta, come di solito fa in questi casi, ma un po' tutta la stampa l'ha fatta. Allora, non so, io non mi sento adesso non credo di poter elencare i motivi per cui questo è successo, no? Io ho il titolo italiano di Kill Bills, proprio perché, diciamo, l'uccisione di almeno 1.600.000, se non 2 milioni cambogiani che sono avvenuti durante il periodo dei Khmer Rossi, fu coperto da un silenzio di cui noi poi abbiamo saputo i motivi. In parte era un silenzio ideologico della sinistra, la quale non voleva ammettere che l'esperimento, diciamo, dell'anno zero in realtà non fosse altro che quello che io chiamerei un genocidio. Poi in realtà, diciamo, il tribunale ad hoc per la Cambogia ha scelto il termine genocidio soltanto, come ha ricordato Maung prima, per l'uccisione dei Cham, che sono una piccola popolazione, dei vietnamiti residenti in quel paese, ma non per il popolo cambogiano. Allora, perché c'è stato quel silenzio? Beh, io potrei dire per la distanza, no? Sapete, uno studioso di cui non ricordo il nome ha fatto, oggi si chiamerebbe algoritmo, ma non lo dirò nemmeno io, ha fatto una proporzione per cui in base alla distanza in cui si muore dal centro di interesse si pesa di meno. Allora, un morto a Latina per un signore di Roma pesa di più di 23 morti in Albania, di 40 morti in Turchia, di 80 morti in Pakistan, di 200 in India e di 500 in Indonesia. Un po' può essere attribuito al provincialismo, pensare che le cose lontane non ci riguardano, salvo poi accorgersi che il telefonino Huawei lo usiamo anche noi e fa parte di un giro dove forse c'entra anche il Myanmar. Però c'è una cosa su cui io vorrei arrivare. Intanto, prima di tutto, ringraziarvi per questo invito, ringraziare la Fondazione Basso, il segretariato del Tribunale Permanente dei Popoli, perché ci dà l'occasione di parlare di qualche cosa, e soprattutto perché questo avviene in una sede istituzionale, per cui io porto il massimo rispetto. Quando queste cose avvengono in una sede istituzionale, i giornalisti, che hanno due funzioni principali, fare i reporter e fare, diciamo, le inchieste, gli investigatori, ma questa seconda parte, diciamo, è più complicata, è più difficile, non ci sono i soldi per farla, non ci sono gli strumenti, ma il reporter è un signore che riporta. Naturalmente, se io mangio il gelato, nessun giornalista lo riporta. E neanche se il professor Giuseppe Palmisano fa lezione all'università, ma se la sua lezione si trasferisce in un'istituzione, per un giornalista questa diventa una notizia, o può diventarlo nella gerarchia delle cose. Se l'attività istituzionale, la grande attività istituzionale, quella del Parlamento, quella del governo, è assente, come è stata assente in Europa e in Italia, le notizie non saltano fuori. Salta fuori quando c'è il grande eccidio, ma poi silenzio totale. La signora Aung San Suu Kyi viene in Italia durante il governo precedente e il primo ministro che la riceve non tratta questo argomento. Il governo attuale non ha che mi risulti preso nessuna posizione, così non aveva fatto il governo Gentiloni, così non aveva fatto il governo Renzi, una dichiarazione, nemmeno dico un evento. Per questo è particolarmente importante la sensibilità del presidente Fico, che ringrazio come cittadino, oltre che come giornalista. Quindi l'assenza di quelle cose, di questa attività, e lo stesso è accaduto in Europa, porta al fatto che queste notizie siano sempre meno veicolate. Aung San Suu Kyi ha fatto un giro in Europa e in Italia ha incontrato anche un'altra persona, ha incontrato il Papa. Ufficialmente il Papa non ha parlato della questione di Rohingya per un motivo molto semplice, cioè che si stava per recare nel Myanmar, dove gli era stato richiesto dal capo della comunità cattolica del Myanmar di non pronunciare la parola Rohingya, che in Myanmar non si può pronunciare, è una parola tabù. Il Papa che cosa ha fatto? Ufficialmente non ha detto niente, ma ha fatto trapelare, questo significa saper lavorare con i giornali, la notizia che aveva sollevato ufficiosamente la questione dei Rohingya. Purtroppo Gentiloni non ha fatto lo stesso, neanche gli altri che io sappiano, è tanto semplice. Si chiama un giornale e si dice, sai, ufficialmente non lo possiamo dire, però nemmeno questo. Che cosa ha fatto l'Europa? Ha ripristinato un divieto che esisteva all'epoca della giunta militare, cioè il divieto per gli alti gradi birmani di venire a fare la spesa nel nostro paese. Non possono comprare più le armi, anche se Zarni mi pare che abbia toccato questo argomento, e poi gli chiederemo una spiegazione a proposito di armi, questo è molto importante. Noi ci auguriamo, e qui concludo, che il Tribunale Penale Nazionale, spinto anche dalle cose oggi che il Tribunale Permanente dei Popoli, le evidenze raccolte che saranno consegnate al Tribunale Penale Internazionale, questa è per me una notizia, da giornalista io sono obbligato a riportarla, viene detta qui, non viene detta per la strada, non viene detta in una sede, come dire, secondaria, quella di un'associazione della società civile, viene detta all'interno dell'istituzione principe della nostra democrazia, il Parlamento. Bene, l'Unione Europea ha ripristinato questo divieto, noi ci auguriamo che il Tribunale Penale Internazionale, se condannasse per la deportazione, potrebbe imporre naturalmente all'Interpol di arrestare chi si presenta ai confini del nostro paese, se non vado errato, che siamo membri e quindi vincolati alle decisioni della Corte, in modo tale che questi signori non solo non possano fare la spesa nei nostri supermercati, ma neanche attraverso le triangolazioni per cui siamo diventati famosi, riuscendo a bombardare lo Yemen con delle bombe tedesche che transitano nel nostro paese ma vengono riempite di polvere da sparo in un altro. Grazie. Bene, abbiamo qualche minuto per consentire a chi ha voglia di interloquire, di fare domande, di fare osservazioni, di fare rilievi o semplicemente di fare un intervento. Abbiamo degli autorevoli giuristi, politici, esperti di diritti umani presenti tra il pubblico. Saremo felici di un loro intervento. Professoressa Flavia Lattanzi, prego. Sì, sì, prego. Al microfono, grazie. No, soprattutto perché sono presenti molti studenti, volevo con la mia un po' vecchia mania di fare l'insegnante, dire a loro che la questione dei Rohingya davanti alla Corte Penale Internazionale è venuta fuori soprattutto per l'iniziativa, l'audacia, il coraggio di un giovane, tra l'altro italiano, laureato in Italia, quindi in un'università italiana, che nell'ufficio del procuratore della Corte Penale Internazionale a un certo punto ha detto: ma perché non ci occupiamo di questa situazione? E tutti, l'ufficio del procuratore: ma che dici? Ma insomma, non abbiamo competenza, la Corte Penale Internazionale non ha competenza per un fatto del genere, per una situazione del genere. E lui ha cominciato a lavorare duramente, raccogliendo tutta una giurisprudenza per dimostrare anche interna, per dimostrare che il crimine di deportazione si perfeziona nel luogo di arrivo. E in virtù di questo elemento ha convinto, e vi assicuro, con grande difficoltà, perché non ne volevano proprio sapere all'ufficio del procuratore. Lui è un giovane legal officer che non ha neppure una grossa posizione nella carriera dell'ufficio del procuratore, è riuscito a convincere chi doveva poi prendere questa iniziativa che di questa situazione la Corte Penale Internazionale era pienamente competente ad occuparsi. Per quale motivo poi c'è stato, come ci ha detto il relatore precedente, la necessità di chiedere a una pre-trial di chiarire questo aspetto? Perché all'ufficio del procuratore c'era ancora gente che non ci credeva, c'erano ancora dei problemi. E quindi per non rischiare di dover poi spendere molto, perché si spende molto nelle indagini su questi fatti per il mondo, e la Corte viene accusata molto spesso di spendere, rende conto quanto sia difficile fare questo, quando non si ha neppure una polizia giudiziaria, di cui la Corte naturalmente non è dotata. E quindi prima di rischiare di fare un lavoro inutile che poi sarebbe stato bocciato dai giudici, hanno voluto coprirsi un po' le spalle e hanno fatto questa richiesta. C'è stato, come è stato rilevato, sottolineato, l'opinione dissidente di un giudice, e non è a caso un giudice di una grande potenza. È stato detto di quale nazionalità, mi risparmio di ripeterlo. E quindi, ragazzi, insomma, ciascuno di noi può fare qualche cosa. E quindi rispondiamo anche positivamente all'appello del precedente relatore birmano, che ciascuno di noi può fare qualche cosa perché ci si muova su questa situazione anche nel nostro paese, perché veramente il silenzio e il silenzio della stampa di cui ci ha parlato il giornalista ora è veramente una cosa vergognosa del nostro paese. Grazie alla professoressa Lattanzi, che in ogni occasione continua a darci stimoli proprio da maestra, perché ognuno di noi davvero si impegni per cambiare la situazione esistente. Raniero Lavalli, prego. Studenti e giovani che non conoscono, qui adesso vi parla un pezzo di storia civile, politica, culturale e religiosa di questo paese. Oltre ad essere da sempre un amico della Fondazione, Raniero, io l'ho conosciuto giovane magistrato nel Veneto, lui non lo sa nemmeno, in un palazzetto dello sport, dove venne a parlare in uno dei tanti dibattiti sul referendum sul divorzio. Era non una sala dove stavano 80 persone, era un palazzetto dello sport gremito come nelle partite più intense. Raniero tenne tutti noi, me per primo, che personalmente lo vedevo per la prima volta dopo averlo visto tante volte in televisione, incantati per tutto il tempo della sua conversazione. No, ringrazio Franco Ippolito per questa presentazione, non vi incanterò, veramente grazie. No, io invece, come giornalista, perché siamo un po' tutti giornalisti, vorrei fornire un supplemento di informazione sulla questione del Papa e dei Rohingya. È vero che il Papa, quando è andato in Myanmar, non ha usato la parola Rohingya, ma l'aveva usata da quando è stato fatto Papa fino ad allora sempre, anzi ha denunciato la strage, la violenza contro i Rohingya quando erano nelle navi e in nessun paese potevano attraccare perché non volevano che... E sono stati i primi naufraghi di cui il Papa si occupa, prima dei naufraghi del Mediterraneo. Il Papa ha denunciato e ha difeso la causa dei naufraghi Rohingya. Quando è andato in Myanmar c'era questo vincolo ufficiale, lui andava con un viaggio ufficiale, quindi non poteva pronunciare la parola Rohingya. Adesso noi poi abbiamo saputo che è più importante che essere Rohingya è essere esseri umani, fratelli gli uni degli altri, e su questo... Ma appena è andato in Bangladesh, il Papa ha ricevuto ufficialmente una rappresentanza dei Rohingya, li ha accolti, li ha consolati, li ha riconosciuti. E quindi, voglio dire, c'è questa sensibilità, non si possono fare paragoni. Come anche per il genocidio degli armeni, quando c'è stato il centenario del genocidio degli armeni, Il Papa Francesco lo ha ricordato, lo ha denunciato, meritandosi la protesta di Erdogan, il primo ministro turco, e lo ha fatto utilizzando la sentenza del Tribunale dei Popoli sul genocidio degli armeni che il premio Nobel Pérez Esquivel, che era stato giudice in quel tribunale in cui si era condannato il genocidio degli armeni, la sentenza che Pérez Esquivel gli aveva consegnato. Quindi, diciamo, sul piano della lotta contro il genocidio, almeno su questo versante, possiamo stare tranquilli. Grazie. Grazie Raniero. Le vie del Signore sono davvero infinite se una sentenza del Tribunale Penale Internazionale, che ormai ha tanti decenni, arriva al Papa Bergoglio attraverso le mani di Adolfo Pérez Esquivel. Grazie. Possiamo passare la parola a Gianni Tognoni, ancora per i giovani presenti. Gianni Tognoni è stato tra i primi collaboratori di Lelio Basso e ha cominciato la sua attività di segretario generale, prima col Tribunale Russell II, quello sull'America Latina, e poi ha realizzato, Basso è morto a dicembre del 78, la prima sessione del Tribunale si è fatto, come dicevo prima, a giugno del 79, il merito è soprattutto di Gianni Tognoni e Linda Bimbi, che hanno voluto subito realizzare, come dire, l'ultima delle intuizioni e delle proposte di Lelio Basso. A Gianni la parola. Grazie. È molto difficile, praticamente il titolo conclusione si mette perché alla fine di un programma penso che se c'è una conferenza in cui non si traggono conclusioni se non eventualmente alcune riflessioni per le cose da fare in avanti, e non si può nemmeno cercare di riassumere le cose state dette perché sono troppe, molto importanti e possono essere poi ritrovate via via con tutte le indicazioni fatte dai giornalisti su una stampa che per fortuna a livello internazionale, almeno dal punto di vista dell'informazione, adesso è diventata abbastanza critica, soprattutto nel mondo anglofono. Io volevo, proprio come parte del Tribunale, ritrovare soltanto alcune parole che mi sembrano particolarmente importanti anche per tutta la parte sia del giornalismo che del diritto, e anche di quanto Palmisano e Ferraioli dicevano prima sul rapporto tra diritto e società. Cioè, la prima parola che a me sembra importante era citata ed è citata nella sentenza del Tribunale ed è stata ripresa adesso da Zarni, è stata ripresa da Nello Rossi, però sembra un aggettivo e invece è una parola centrale. È una parola che si declina in due modi nei testi. Uno è ongoing, il genocidio è in corso da tempo. La seconda è slow burning, brucia via via, si cronicizza. Ora, qui c'è un problema che mi sembra particolarmente importante per tutta la parte del rapporto diritto-società, giornalismo, società, ma anche proprio sul modo con cui oggi noi viviamo questa situazione che è permanente. Il caso dei Rohingya, è stato detto, è stato esemplare. Prima di questo avevamo avuto i Tamil come tribunale, quelli sono scomparsi. Il popolo dei Tamil, forse perché era un movimento, c'è stata una sentenza, là era partito l'attenzione anche ai Rohingya, ce ne sono delle altre. Il problema è che la cronaca oggi sostituisce praticamente la realtà. Se uno riesce a fare una cronaca abbastanza cronica, praticamente fa come se il problema fosse risolto. Ricordiamoci che tra gli attori del genocidio dei Rohingya, l'ha riconosciuto direttamente, è stato Facebook, che è stato uno dei creatori della piattaforma per i discorsi dell'odio. È stato riconosciuto formalmente da Facebook per tutto questo che riguardava l'atteggiamento della società. Secondo, è interessante avere l'idea che nel frattempo, mentre si discutono queste cose che sono ovviamente anche per noi molto importanti, della Corte Penale Internazionale, il diritto, le provisioni, il concetto del tempo presente scompare. Il diritto non si dà al tempo. E il problema che si pone evidentemente è che nel frattempo il governo del Myanmar, per esempio per l'Italia, può rallegrarsi del fatto che il turismo in Myanmar in questi anni di genocidio è aumentato molto. È uno dei paesi più gettonati, come era stato lo Sri Lanka al tempo dei Tamil. Sono i paradisi riservati e sono molto belli, non c'è troppa gente, gli altri sono troppo frequentati. Questi invece sono importanti. Allora, io penso che questo è un problema che dal punto di vista proprio della cultura dei nostri paesi, io non sono un giurista, per cui pone il problema del sapere della connessione tra questo caso esemplare, perché è un caso esemplare in cui si viola in maniera esemplare ed estrema il diritto. Cioè, il diritto è provocato, il diritto non per criticare o meno il diritto internazionale, sono state dette tutte le cose necessarie. E proprio per avere questa idea che stiamo vivendo, lo diceva Franco Ippolito all'inizio, in un mondo in cui la dissociazione tra diritto e realtà è diventata la regola da tanti punti di vista. Uno, perché uno afferma il diritto umano e poi lo viola, non importa, cioè l'impunità è assicurata. L'altra, perché evidentemente si può fare eventualmente il contrario. Si mette un aggettivo a una parte della violazione e questa violazione diventa umanitaria o diventa qualcos'altro. Ora, questo è il problema che si pone in generale a quello che, come segretario, meno uno che ha accompagnato tante sessioni del Tribunale, continua a riproporsi in maniera prioritaria. Ed è la domanda che pongono i popoli, cioè le vittime, perché i popoli, al di là di tante cose, qui sono vittime. Siamo o non siamo dei soggetti della storia? O il nostro destino è stato quello che di volta in volta c'è qualche popolo, è stato usato il termine agnello sacrificale, lì c'è la via della seta o altre cose. Ora, il problema che si pone è molto importante perché questo riguarda veramente un po' tutti i popoli nel loro essere soggetti. Non è necessario arrivare al genocidio che diventa un caso di diritto internazionale. I crimini contro l'umanità, per cui il Tribunale ha dichiarato tante cose, per le multinazionali, sono meno gravi, era stato detto molto, Ferraioli lo guardava molto bene, adesso forse c'è la proposta di fare un tribunale da parte dei medici sulla sanità, come che è un'altra degli ongoing genocide. Tutti gli anni sono pubblicati dati di 5 milioni che muoiono in eccesso e dovrebbero essere evitabili. Tranquilli, sono vittime, fa parte dell'evoluzione. Ora, c'è il problema di sapere quanto è possibile, ed è la domanda, penso, importante per questo, oltre a quella della parte istituzionale, la domanda che sento io come umano o come cittadino, uno che lavora in questo campo, come fare a occupare il tempo tra un eventuale riconoscimento di genocidio, ma dal punto di vista della Corte Penale uno potrebbe trovare anche altre cose, crimini di guerra, poi bisogna riconoscerli. Con i curdi abbiamo fatto una sentenza sui curdi in Turchia. È stata presentata al Parlamento europeo settimana scorsa, prima era stata presentata al Parlamento. La Turchia è un paese con cui si devono fare traffici, accordi, vendere migranti. Allora, lì i crimini sono stati chiarati come crimini di guerra, poi ce ne sono tanti altri crimini che si possono aggiungere. Allora, il problema è di dire quanto quello che è stato detto, se tutto deve passare per il penale, il problema che appare vero ai popoli è: ma allora è molto più importante garantire a uno Stato l'affermazione del proprio privilegio esclusivo di condannare, e di fare delle sentenze. Nel frattempo le vittime possono morire tranquillamente, perché loro sono già vittime, non c'è nessuno che le garantisce. Cioè non ci sono strumenti per garantire le vittime, o almeno per proteggere, perché il problema dei Rohingya oggi è che, al di là del Tribunale Penale Internazionale, se aspettiamo, magari fosse accettato, una investigazione in più, giustamente, come diceva Flavia Lattanzi, su questo il Bangladesh può stancarsi, le pressioni sul Bangladesh possono stancarsi. Nel frattempo questi muoiono, non so chi di voi riesce a leggere i tanti rapporti che ci sono sui campi del Rohingyas. Tutti i rapporti delle commissioni internazionali che sono andati hanno detto non abbiamo mai visto delle cose simili. Gli unici che hanno detto che hanno visto delle cose simili sono quelli che hanno visto l'isola di Lesmo dei migranti, dove hanno visto che incominciano a registrare un'epidemia di suicidi di bambini e adolescenti. Perché è una cosa nuova, il suicidio dei bambini, perché sono soli, abbandonati e tutto, era abbastanza nuova nello scenario internazionale. Allora, a me sembra che sia importante essere portatori, non so con che cosa del diritto, al tempo dell'apartheid, un tempo, se uno viene dichiarato crimine d'apartheid, c'era un minimo di probabilità che c'era un boicottaggio o qualcosa. Rispetto a Rohingya, le richieste di fatto di boicottaggio fanno parte di un gioco tra potenze. Sono perfino degli statunitensi che dicono al governo degli Stati Uniti non vende più armi. Quella dicono vedremo, nel frattempo però fanno le manovre militari con quelli dei Rohingya e nel frattempo fanno accordi con Israele per vendere sistemi di spionaggio. Ora, noi siamo in un mondo molto complicato. Il problema di come ridare ai popoli, alla gente che può essere via via la vittima, proprio in qualche modo nel diritto, nel linguaggio, anche proprio questo fatto di chiamarli, e lo dicono sempre i popoli che chiedono ai tribunali, per favore non guardateci come delle vittime, siamo degli umani a cui hanno rubato i diritti. È importante avere questa idea, perché altrimenti sembra ogni volta che le vittime devono essere loro a giustificarsi di essere vittime, devono loro documentare di essere vittime. Questo è il problema che si trova di fronte il diritto e la sua missione o capacità di garanzia, perché nel mondo capovolto che ricordavano sia Franco Ippolito che Ferraioli, effettivamente c'è il senso che quello che si temeva con la Dichiarazione Universale dei diritti dei popoli, questo capovolgimento delle gerarchie dei valori in gioco, possa essere effettivamente un momento in cui la società civile perde complessivamente, non soltanto con i Rohingya, il senso del rapporto gerarchico che c'è tra la sostenibilità degli equilibri politici o economici o della civiltà del consumo. Il turismo in Myanmar mi sembra una delle cose che, proprio perché succede così facilmente e così bene, dà l'idea di questa distanza, e il problema di quello che potrebbe essere quello che succede anche negli altri paesi, perché era un po' il grande discorso di Lelio Basso, quello che si fa per la democrazia dei popoli si fa per la nostra democrazia, non si possono separare. Se questo veniva detto negli anni 70, quando in fondo noi come paesi eravamo tra quelli che promuovevano e creavano nuove categorie di diritto o di attribuzione di diritto a dei gruppi umani, adesso nel mondo globale questo è diventato ancor più problematico, e penso, chiudo il mio mestiere, è stato sempre quello di fare un po' il ricercatore, pensando che sarebbe molto importante che sia nel campo del diritto che nel campo anche dell'informazione, visto che è un settore talmente in trasformazione, si pensi veramente che il compito di essere ricercatori di categorie nuove, sono d'accordo con Palmisano, non serve riformare il diritto, poi non saprei cosa fare, ma di pensare veramente che le persone che si trovano coinvolti o coinvolte, e siamo un po' tutti, in queste cose devono sentirsi come, e uso l'aggettivo del tribunale, come parte di un progetto permanente di ricerca, perché le categorie con le quali oggi cerchiamo di difendere i diritti rischiano di essere quelle che chiedono a quelli che già sono state vittime di aspettare ancora un po' prima di diventare soggetti, invece di essere soggetti ai quali possono essere riconosciuti dei diritti. Grazie. Bene, chiudiamo qui questo incontro. Io davvero ringrazio tutti voi e mi auguro che per i tanti giovani presenti ci siano stati stimoli per ulteriori riflessioni. Grazie. You went to the office. Time.